Roberto Di Varese, cambia, metti sulla Zanzara. Vai là, veloce anche. Vai sulla Zanzara, tu devi ascoltare quei programmi lì. Non ascoltarmi, te lo ordino. È un mio diritto. Ho il diritto di non essere ascoltato da gente come te. Ho il pieno diritto. Vai sulla Zanzara, vai! La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Mia moglie mi ha lasciato, i figli non vogliono più saperne di me, il lavoro sta andando malissimo, mi stanno licenziando. Finalmente potrò sentire la giornata tutti i giorni in diretta, che spettacolo, sono al top. Allora, caro Davide, mentre i napoletani riescono anche a clonare i panettoni, abbiamo sentito oggi, clonano anche i panettoni famosi, quelli che costano un sacco di soldi, un sacco di quattrini, degli chef prestigiosi, riescono a clonare anche... Sono dei geni alla fine, hanno scoperto a Napoli dei panettoni famosi clonati. Clonati. I nostri panettoni, i 200 panettoni, 206 per l'esattezza, ecco. Panettoni che ci sono pervenuti. Io devo fare reperire a Lampedusa, devo... No, dai signori della Motta, siccome sono qui, non è che adesso possiamo organizzare l'espedizione a Lampedusa. Verranno donati nella giornata di venerdì, la maggior parte di questi, altri se li mandiamo noi qui e li distribuiamo tipo prebenda. Io che sto a Roma la prendo nel cesto. Ti attacchi. Sì. La prendo nel cesto? Così? Ma no, ma anche a nome tuo, verranno consegnati all'Opera Francescana di Milano. Non ti va bene, io vorrei però destinare qualcuno anche ai campi profughi. I migranti sì. Io dammi una parte della mia quota. Perché i campi profughi? Pago io la spedizione. Ma dalle ai poveri italiani, quelli ci pensa lo Stato. No, indistintamente. Ma scusa, ci sono adesso, non voglio fare il salviniano, ma ci sono un sacco di persone che non prendono i soldi, questo è giusto, non prendono i soldi. Insomma, dei miei 100 almeno 20 voglio mandarli anche ai migranti. Assolutamente, no, ai migranti in generale, stanno nei campi delle tendopoli. Allora, Lorenzo, due punti, voglio dare i panettoni ai migranti e non agli italiani. Diciamolo chiaramente, ma perché? È 18:37, chiudiamo qua, perché poi ti arrivano tutte le telefonate, maledetto, cose. Ma è vero. È vero, 18:37. È meglio un italiano indigente che un immigrato peraltro. A me dispiace, ma la trasmissione ha anche delle cose belle, perché poi io la sento da tempo, ormai da 6 anni, è bella, c'è la musichetta, gli stacchetti. Allora, se sono qui, agli stacchetti, la musichetta, la gente che telefona, alle volte c'è il pazzo, poi c'è la trans, poi c'è l'imprenditore, c'è anche diversi registi, poi 2 ore e mezza di trasmissione, tante sciocchezze, però si ascolta, c'è niente da fare, bisogna dirlo, sta trasmissione si fa ascoltare. E allora? Però chiudiamo qui, perché non si può aizzare la gente. Sì, poi oggi è giovedì, cos'è oggi? Mercoledì, chiudiamo. Dai, ci rivediamo al 2017, grazie a chi ci ha seguito, è stato veramente un bell'anno. Ma sono le 18:38 di un mercoledì prima di Natale. Perché hai rovinato tutto. Davide, ti dispiacerebbe andare a fare in culo? Ma frega niente a me, non me ne frega niente. Più tardi ci sarà il direttore, più tardi, grande battaglia. Ma col cazzo, ma non me ne frega niente, abbiamo già detto che questi islamici maledetti, ma che cazzo parliamo? Ma mi invitate qua per fare cosa? Non me ne frega niente. Ragazzi, Poletti non si dimette, nonostante tutta l'Italia invochi tutta l'Italia. No, ma anche la sinistra, così. I ragazzi, i giovani del PD, mi pare, vabbè, questa è la notizia vera. Bisognerebbe rispetto ai giovani del PD, bisognerebbe rispolverare il famoso sticazzi. No, però è una notizia che i giovani del... gli stessi ci sono alcune notizie che andrebbero catalogate sotto un timbro molto deciso, che è questo. Questi cazzi. Molto chiaro, sempre, molto semplice. Sempre raffinati, i giovani diretti. Del PD. No, ma è Boris, peraltro, lo sai, no? Allora, i giovani del PD che chiedono le dimissioni di Poletti, la risposta a questa roba è molto chiara. Questi cazzi. Come tra l'altro sti cazzi della discussione della discussione che c'è tra Giachetti e Speranza, al di là dell'espressione faccia di culo. No, ma nel merito, c'è chi rimprovera chi a cosa, cioè si sta discutendo della posizione, non so in quale anno, di Speranza. Che già non lo conosce nessuno. No, e va bene. Non è vero. Bravo, solo ragazzo, solo, ma per chi lo dice? Chi dice il contrario? Beh, candidato alla segreteria. Ma stanno per litigando la sulle posizioni del PD, un sulle ragazzo per bene, del pulito, 2000... pulito. Ma faccia chi dice pulita, il schiena dritta, schiena ma dritta. Che vuol dire? Ma che vuol dire? No, dice, siccome non lo conosco, non lo conosci ma tu. Non ho il mondo detto della questo, politica lo ho detto anche. Semplicemente che la discussione tra i due, tu eri prima per il Mattarellum o contro il Mattarellum, diciamo la verità, è una discussione non appassiona, un po'... no, non appassiona. Questa, su questo poi che avere i due ragione. Litighino, quello è Renziano, quello è contro Renzi, sì. Quello ci sta e quello è anche abbastanza comprensibile ai più, anche sì. A me che sono, come dire, ormai disgustato da queste cose. Ma il litigio sul Mattarellum, tu pensavi una cosa prima e tu adesso ne pensi un'altra, questo... Sull'Italicum si è dimenticato lo sciopero della fame e si è messo ad applaudire gridando viva Renzi. Sullo stesso Italicum un signore di nome Roberto Speranza, che a 36 anni faceva il presidente del più grande gruppo parlamentare della storia repubblicana, si è dimesso da capogruppo, ha votato no al provvedimento e non ha votato la fiducia impropriamente messa dal suo governo. Questi cazzi! Cioè, ma tu ti rendi conto della frase? Chi l'ha capita? Quella era da te, per carità, sì, è un pubblico che è magari appassionato di queste cose. Cioè. Ma chi lo capisce? Non è una cosa complicata. Ero capogruppo e allora non ho votato la fiducia al Mattarellum all'epoca, eccetera. Ma ragazzi, ma parlano in maniera incomprensibile. Poi dice che la gente vota Grillo. Ma ti credo che vota Grillo? Questi parlano e non si capisce niente. Nulla, niente. Diciamoci la verità. Non si capisce niente. Si capisce di più, per esempio, Freccero, che ieri sera, sempre nella prestigiosa e fortunata trasmissione. Sì, che sì, molto una, bene. Che si chiama Terza Repubblica. Hashtag Terza Repubblica, con, sì. Anche con l'ottimo telefono. Anche perché ottimo, non c'era... Anche perché, mi piace no, ma perché non c'era in onda un cazzo, anche, bisogna sì, dire. No, ma no. Senza ombra di dubbio. No. Allora, senza ombra di dubbio. Molte voci vengono da là, sì. Signor Fre- non lo faccio sì. Per lo sai, no, non, ma è che lo faccio per omaggiarmi. Ma non è che signor Freccero dice: godo come un porco per il flop sì. Di Renzi. Ecco, Speranza dovrebbe dire questo. Dovrebbe dire, perché lo sente, rideva là, uno come Speranza. Questi è PD, dovrebbero dire: godo come un porco. Lo sentono, lo provano, festeggiano in privato. Invece non lo dicono, parlano e non si capisce niente. Freccero. Niente. Il fatto che occorre nascondere il flop di Renzi. 60-40 come? Che devo godere come un porco, cioè veramente lasciatemi godere, contenga il linguaggio, Freccero, che siamo in prima serata. Pubblicità. Vabbè, pure tu modera il linguaggio. Che modera il linguaggio, in qualche modo è una cosa fantastica, come un Renzi. Allora le masse che si ribellano, vinceremo il referendum sul Job Act. Sì, ma dice vinceremo, ma chi? Vabbè, ci sarà il referendum, sì, numero uno, sì. Occorre che ci sia il referendum sul Job Act. Lo vinceremo, naturalmente. Già in campo, Freccero, sì, già pronto, una vittoria clamorosa, clamorosa. Sì, ma quello è facile. È facile, appunto. È stupendo. Ma è come, cioè, consigliere d'amministrazione della Rai, c'è uno che amministra la Rai. Facciamo il referendum, ma che cazzo sei? Capo di un partito? Numero uno, numero uno, no, a me lo dici, professore. Quando parla con così è numero uno. Sì. Allora, Poletti, teniamo su Poletti, mi hai fatto un po' distrarre. Poletti è sempre il ministro, non il signore che fa... tra l'altro oggi il figlio... Che sobilla le masse a quinta sì, colonna. Si è scoperto che il figlio, Manuel Poletti, in realtà ha preso, cioè sì. Non lui personalmente, naturalmente la società editrice di cui è direttore di vari giornali, ha preso circa 500.000 euro in 3 anni. Io questi finanziamenti pubblici all'editoria, che magari coinvolgono anche aziende di questa, anche parti di questa azienda, li cancellerei però. Domani mattina. No, te lo dico, vanno cancellati, non si capisce perché debba prendere 500.000 euro in 3 anni. Adesso Poletti, ma potrei dire la stessa cosa di chiunque altro. E non un cazzone qualsiasi, solamente per entrature politiche. È un qualcosa che è governato dal governo per distribuire prebende e favori. Mi pare una cosa evidente, per questo non li sopprimono. Sì, come no. I contributi all'editoria vanno a tutti. I contributi per l'editoria vanno a tutti i giornali. Sì, ma quello è un altro discorso. Ecco. Questi finanziamenti pubblici all'editoria di cui ha goduto il figlio di Poletti, Manuel sì. Poletti, sono distribuiti quelli, a pioggia. Forse perché già è delle cooperative. Essendo proprio delle cooperative. Ma perché devo finanziare il giornale delle cooperative? Ma io sono d'accordo con te su questo. Cancelliamo tutto. Ma cancelliamo io su questo tutto. Sono d'accordo con te. 18:44 cancelliamo anche la trasmissione perché sono d'accordo con te. Scusa, mica finanziato. Ma non c'è più nulla su cui discutere. Come facciamo? qualche stronzo lo dice, una cosa di buon senso. Qualche stronzo lo dice che noi siamo finanziati dal coso. Comunque questo qua dice che il padre c'ha ragione, che in fin dei conti chi ha, tra quelli che vanno all'estero, che non l'avrebbe detto in quel modo, tra quelli che vanno all'estero c'è sicuramente qualcuno che non la laurea non significa nulla, e questo è vero, per carità, perché la laurea non significa niente. Per esempio Parenzo non è laureato, io sì, e probabilmente qualcuno questo pensa ti dà, che Parenzo ti dà l'idea, ti dà l'idea, ma ti dà l'idea, che cosa, scusa, non ho capito. Allora Coletti, il titolo di studio assolutamente Coletti. Ministro, buonasera. Buonasera, cosa pensa di fare? Si dimette, ministro, come chiedono le opposizioni? No. Ottimo, senti il no, come l'ha detto. No. Senti come l'ha detto, no. No. No. C'è una mozione di sfiducia, D'Agostino. Sempre moderato, signor D'Agostino. Sì, sempre da noi ieri sera. Sì, sì, sempre, sempre. Beh, non c'è bisogno di ripetere. Ah, dice che eravamo solo in onda, solo noi. Dice, vai, forse no, anche questa è vera. Cioè, però dice, va bene. Cioè, sì, non c'è no, bisogno. No, per carità, va benissimo. Non è che dico, non vai, posso vai. Contestare. Chiudiamola, però. Sentiamo D'Agostino e poi andiamo a casa, dai, che ma è meglio. Perché? Perché è meglio. Facciamo... Ma tu inviti la gente a non telefonare in questo no. modo. Ma abbiamo esatto, ancora certo. due ore e mezza, dai, su. Quando ma quando ha parlato Poletti, ho visto che hai fatto così. Cioè, non capisco perché. Non si è dimesso perché non l'hanno cacciato. Quello va, si deve dimettere subito, perché è un uomo che dà sputa in faccia a tutti i ragazzi disoccupati d'Italia. Perché Poletti ha detto questa frase? Perché si sarà sbroccato il cervello, mancava anche Rotella, ha mangiato troppi tortellini. Ma che ne so io? Solamente che non può essere un ministro della Repubblica una persona che insulta i disoccupati. Però poi adesso posso. Perché? No, no, aspetta. Ma no, la risposta è perché ha detto quello? Gli sarà sbroccato il cervello, gli sarà mancata qualche rotella, non lo so, che cazzo me frega. Signor D'Agostino, il vero mistero è come D'Agostino abbia resistito, perché io ho acceso la televisione alle 11.30. Sì. Perché è venuto alla fine. Ma, è venuto tutti i 20 minuti. Bisogna mettere a dorme, signor D'Agostino. No, no, va bene, è venuto, ragazzi, fermi combattuto. Tutti, fermi tutti. Non capisco perché tra un traffico e l'altro c'è di mezzo la zanzara. Non si potrebbe fare tutto traffico. La zanzara. Non avete capito un cazzo! Non avete capito un cazzo! Allora ragazzi, Sgarbone scatenato, scatenato caro David, scatenato sulla Raggi, scatenato sulla Raggi. Sì. Sentite, sentite, il contratto con Casaleggio, una roba vecchia, però credo la senatrice Cirinnà, una senatrice del Partito Democratico, Cirinnà, lo ha reso noto a altre, anche altre persone, in questi giorni lo hanno pubblicato. Il contratto, io non capisco che bisogno c'è di fare che un aspirante sindaco o un deputato faccia un contratto con un'associazione privata. C'è un contratto che prevede delle penali nel caso in cui tu non rispetti il patto con i cinque, una cosa delirante. Adesso non so se sia anticostituzionale, se sia una roba che prevede, come dice qualcuno, che il sindaco sia ineleggibile. Alla fine non me ne frega assolutamente nulla, è più forte il fatto che è stata votata dai romani che questo contratto qui. Beh, certo. Però perché devi firmare quella roba lì? La realtà è che c'era un tentativo, non so quanto riuscito, poi di telecomandare tutto dall'alto, cioè di guidare queste persone. Dice no, tu devi fare quello che dico io, no? La Raggi guidata dalla Casaleggio Associati, questo è il punto fondamentale. Comunque Sgarbone, dai. Con grande serenità faremo un esposto alla magistratura, che è quella che regola tutto, chiedendo come sia possibile che un sindaco, prima di accettare o di assumere la sua funzione, firmi un contratto con una società privata con penali se non obbedisce agli ordini. Quindi il sindaco, per assumere un ruolo a cui è stato eletto con un voto democratico, deve firmare un contratto con la Casaleggio, che non è una figa, è una società. Questa è stupenda, la Casaleggio, tu si riferisce naturalmente alla Casalegno, uno alla Casalegno, non è una figa ma una società, meravigliosa. Vedete la fotografia della Raggi, è possibile che un sindaco, oltre ad andare in giro con un'improbabile borsa, abbia dei jeans già rotti, tagliati? Cioè, il sindaco mostra il decoro della città con dei jeans tagliati come quelli di una povera coatta che, seguendo la moda, vuole blue jeans già rotti. Ricuciamogli e mandiamola a fare in culo. Ah, scusa però, amico mio, cioè, va bene tutto, però non è che il sindaco con i jeans rotti, anzi è una cosa che in teoria dovrebbe avvicinare di più, no? Avvicinare di più il sindaco alle persone normali, cioè non è che se uno si veste come fa sempre Sgarbi allo stesso modo con queste giacche blu completi con i pantaloni grigi, perché Sgarbi va sempre vestito allo stesso modo, la giacca blu di solito e i pantaloni di un altro colore che sono grigi, che sono grigi, poi camicie spesso a righe bianche con le righine azzurre oppure bianco oppure azzurre eccetera, si veste sempre allo stesso modo da 25 anni. Sono Raggi, c'ha i jeans spaccati così, vabbè, ma non sarà questo il problema. Dettagli, dai, dettagli, dai, no, infatti, dettagli. Vabbè, Paco da Belluno, mo che vuole Paco? Paco da Belluno è quello a spada di fuoco. Qui alla fine, guarda, è incredibile. Paco, Bruciani, dimmi, dimmi. Ascolta, io mi incazzo sempre con te, però ti ascolto sempre. Guarda. Io ti mando sempre, guarda, ti mando sempre a fanculo, però ti ascolto. Dimmi, sempre. Paco, Paco, senegalese, no, da tempo in Italia. Sì, e praticamente... tu mi fai incazzare, no? Tu mi fai incazzare. Ma che stai parlando col viva voce, innanzitutto? Mi fai incazzare. No, tu. No, non sto parlando col viva voce. No, non parlo. Paco. Ma c'hai o il viva voce o l'auricolare? Guarda, sono certo. No, no, ti giuro, neanche uno dei giurami, due. Giurami sul tuo Dio, no, che non so giuro, quale sia. Ti giuro, neanche uno dei due, guarda. Giurami su tua figlia, quella là che non ti fanno vedere i testimoni di Geova. No, ascoltami. Storia guarda, che vuoi, Paco? Adesso che cosa hai contro di me oggi, Paco? Sempre, io Paco ti dico sempre che tu sei una razzista, no? Cioè, ma è razzista, a te non piacciono i migrati. No, sì. Migrati, no, migranti, no, migrati, quelli migrati è un'altra cosa. Sì, come sì, i migranti. Sì, perché sì, non migranti? Ma è una vita che sta in Italia e impara a parlare italiano pure te, no? No, ma oggi un senegalese, non so dove. Io lo parlo meglio di te, io l'italiano lo parlo proprio. Ma non è vero, è molto vero. Io lo parlo molto meglio. Allora, Paco, devi sapere che un tuo connazionale senegalese oggi, a un tuo connazionale senegalese è stata praticamente proibita, è stata impedito di avere la cittadinanza italiana perché un sindaco in provincia di Pordenone lo ha fatto parlare italiano e quello non è riuscito a parlare italiano. Lui ha detto stop, non si può avere la cittadinanza italiana, il giuramento non può continuare, lo ha mandato a casa, capito? Ma per prendere la cittadinanza ci sono delle regole, ci sono, è vero, no, che, delle regole è vero che molte persone, anche italiani, non parlano italiano, però questo ma è appunto. Ho capito io, ma vedi gli indipendentisti per un... Paco, che cosa vuoi oggi? Dimmi, che cosa vuoi? Allora, che cosa allora è discorso dei panettoni, no? Ma se non li voglio dare ai migranti, saranno fatti miei, ma o no? No, tu, mo, no, tu, si Parenzo dice che le vuole dare ai migranti, che cazzo te ne frega a te? Bravo, Paco. Che te ne frega a te? Certo. No, ma i migranti sono le persone umane come te, Cruciani, bravo, ricordatelo, bravo, ricordatelo. Hanno il sangue rosso come te, vabbè, ricordatelo, bravo. Cruciani, noi siamo neri, tu sei bianco, ma siamo tutti uguali. Bravo, siamo tutti uguali. Bravo Paco, ci voleva Paco per ricordarglielo. Hai capito quello discorso, no? Senti, siamo arrivati allo stesso posto, ritorneremo allo stesso posto. Ma quello che c'entra, a spada quello del fuoco. Deve capirlo, quello bravo. Deve capirlo. Finirai anche tu sottoterra, Cruciani, prima neri, o poi, speriamo negri, più poi che prima. Siamo dei neri. Ti piace? Bello nero. Figo, ti piace o no? Bello questo, figo. Ma lascia stare bello figo, Rusani. Perché? Che c'ha bello figo? Non ho capito. Lascia stare bello figo. Fa un brutto servizio ai migranti, bruttissimo. Ma perché ti piace bello figo, sì o no? Ma come fa a piacermi una roba di genere? E che io ne mi so? Sono fatto in culo, da 20 anni mi sono fatto il culo come cioè io una roba di genere, ma... Cioè, poi che mi piace bello figo, ma no, ma figurati. Ma che ne so, ma quello guadagna dei soldini facendo le canzoni. Non è il mio problema, sarà il problema che l'ascolta, che Wi-Fi, che va su Wi-Fi, internet. Wi-Fi. No, ma saranno cavoli, poi no. Hai capito, Cruciani? Sì, no, però amico dirti, mio, no. Scusami Paco, abbi pazienza. Io posso scegliere chi dare i miei panettoni? Allora, miei no. Sì, ho capito, ma no, anche ma non quelli è di Parenzo. Problema. Il problema non è che i panettoni vanno, a te, i panettoni, no, a parte quelli non che, è problema, che non sono non quelli è falsi dei napoletani. No, che... no, no, il vabbè. Problema è a te non piacciono i migranti. Ma no, quelli sono già sovvenzionati dallo Stato, in parte. Ascolta. Io voglio dare i panettoni a persone che non hanno magari i 35 euro al giorno che vengono dati ai migranti. Cioè... Ma a te basta che siano stranieri, no? Cioè, ma non te, è vero! Il problema tuo è come i leghisti, no? Come ma quello senti, della Lega, a no? Spada di fuoco, dai, straniero, su. No? Sì, quello è il discorso, Cruciani. Allora io volevo chiederti, no? Com'è che io lavoro in un'azienda di 180 persone? 180, no? Sì. Sono stato eletto delegato sindacale pure. Per difendere i diritti dei lavoratori. I diritti beh. Dei lavoratori. Allora cosa devo fare? Cioè, devo accettare uno, cioè, i secondo diritti te, sicuramente secondo te non devo accettare una roba di genere. Ma che no? C'entra? Senti, vabbè, no, Paco, ti saluto. Ti saluto, va. Vincenzo da Bari, vai, Vincenzo, vai. Poi Crucia, dimmi, Vincia, che vuoi? Ti volevo parlare di Poletti, cioè mi Di Poletti. È piaciuto quando Di Poletti. Dimmi. Allora, quando è uscito lo scandalo, l'affermazione che ha fatto Poletti, è sì. D'accordo che era uno stronzo, ha detto una dichiarazione un po' no, felice, non ho detto che è uno stronzo, adesso non esageriamo. Detto, ma forse in alcune parti ho detto che potrebbe anche avere ragione. Ma come fate a dire che in alcune parti Vincenzo, ho detto che ragione. Quando sostiene che non tutti quelli che vanno che fuori... Dice, che... Meno male che se ne sono andati davanti ai coglioni 100.000, ce ne preoccupiamo di 60. Che stanno zitti con la coda tra le gambe e fanno quello che gli Vincenzo, sta. Non ho detto che pronunciata da un ministro questa frase è una stronzata. L'ho detto. Ma ieri sera hai detto che forse. Ho detto quando avanti. Dice che tutti che quelli che restano qui non sono tutti dei pirla, ha ragione. Ti senti un pirla? Ti senti un ma, pistola? Guarda, no, io, eppure io sei io qui. Mi sento un pistola perché sono obbligato a rimanere in Italia. Sì, perché, sei obbligato. Guarda, no, è vero, ma che è obbligato? Ma dove io cazzo vai, tra l'altro, tu? Ma come dove cazzo? Io non vado da nessuna parte. Appunto, stai a Bari, dai. Muovermi perché ho una famiglia. Appunto, ma se avevo cazzo, una vai. Possibilità in più, io fermo, sarei andato via. Fermo. Poletti, tutta sta storia, la sfiducia. Poletti aveva solo in mente una persona, la Poelti. La Zanzara. Punizione esemplare per Parenzo. La punizione per avere preso in giro una vecchietta di 80 passa anni sarà un anno e mezzo il badante della vecchietta. E vai Parenzo, siamo al top. Allora, un paio di questi panettoni, facciamo anche quattro perché vogliamo essere buoni, caro Parenzo. Quattro panettoni verranno recapitati a casa della signora Rosina. Sì, della ci signora mancherebbe, Rosina, ci assolutamente. Mancherebbe, ci mancherebbe. Così finiranno di romperci i cosiddetti cabasisi. No, no, ma come si dice una, in siculo, cabasisi. Cosa giusta, cosa giusta. Perché ci hanno rotti i coglioni. Abbiamo chiesto scusa, nessuno si deve ergere a portavoce di due vecchietti. Vecchietti o giovani che siano, non importa, in questo caso due vecchietti, nessuno è portavoce di questi signori. Sì. Se ci vogliono denunciare, ci denuncino. Importante che le denunce non vengano dai venetisti, dagli indipendentisti veneti o da chi che sia. Bene, chiaro? Molto bene. Questo molto è un messaggio bene. Anche per la signora Lores, l'amica Lores da Vicenza. L'amica, sì, Lores. L'amica sì. Lores da Vicenza. Che personcina educata. No, è una carina. Persona molto gradevole. Sì, però ma... ieri sera ci ha rotti i coglioni. No, molto gradevole. Sai che ho conosciuto anche la figlia della signora Lores. Ma che famiglia è quella lì? Ma perché che famiglia è? Io preferirei veramente avere un gatto nelle mutande no, per due giorni dai, piuttosto dai. Che andare a cena con la signora Lores. No, ma un ma gatto, perché? Un gatto nelle mutande, un gatto per ma due no, giorni. No, dai. Comunque volevo dirti questo a te e a tutto il pubblico sì, quelli che ascoltano che pubblico, sono la parte pubblico, migliore sì. Grande pubblico mentre sì. Quei quattro miserabili che chiamano come ma sapete no, ma non è vero, sono non la è maggioranza vabbè, allora... la minoranza rumorosa allora... rispetto alla maggioranza silenziosa sì, dimmi, allora... Benvenuto a Michel il figlio di Joy chi? Cacciata chi da Gorino silenzio Joy, benvenuto a Michel che è il figlio di Joy ma che, vabbè, la mamma ma chi se ne frega, incinta da nasce tanta gente. Silenzio cacciata da Gorino sarai caro Joy, cittadino di Ferrara, tranquillamente una in un città altro posto. Molto bella, una città molto bella. Il 2017 sarà per te, per la tua ma adorata mamma, questo non è italiano, un mondo non mi pare migliore, italiano, non mi pare italiano, un mondo no? Migliore. Cacciata da Gorino. Cacciata da Gorino la signora Michelle dai razzisti tu di Gorino, da Gorino. Non lo so cacciata da Gorino sì, dai razzisti di Gorino tu Joy dici. Comunque. Benvenuto in Italia grazie di essere venuto al mondo in Italia vabbè, e ti chiedo scusa ma come ti chiedo scusa se che sei dire, dovuto nascere scusa? A Ferrara piuttosto che lì vicino a Gorino dove ti hanno cacciato ti chiedo scusa l'Italia ma perché non è questa ma che ti chiedo scusa ti chiedo scusa di che ti chiedo scusa a nome ma di ma non c'è niente da chiedere scusa silenzio ma gli diamo poi i quattrini a questi qua 22. Gli diamo poi i quattrini l'abbiamo poi fatto chiudiamo, nascere chiudiamo, noi chiudiamo. Joy benvenuto pazzesca, benvenuto no ma aspetta benvenuto no, Joy Michelle, no, Michelle Joy. Bravo sì benvenuto Michelle benvenuto Michelle e grazie a Joy avete regalato a questo paese cosa? Un bambino straordinario. Ma che ne sai che è straordinario? Che magari un domani vabbè. Diventerà sindaco di Gorino. Domani lui, Michel, diventerà sindaco di Gorino. E sarà la legge del contrappasso, come diceva Dante. La legge del contrappasso. Era molto bello questa cosa. 19-22. Grazie a chi ci ha seguito. Buone vacanze di Natale. Ci vediamo nel 2017. Perfetto. Sigla. Allora, intanto... Sigla. No, metti i nani. Metti i nani fino alle 20:50 che funziona. Fa ascolto. Metti i nani. Metti i nani. C'è sta gente in macchina. I nani. Che telefono. I nani. Mi fai dire metti, una cosa metti. Mi fai dire una cosa. È finito il momento di chiudi, in trance agonistica. Chiudi. Dire una cosa su Tiziano Ferro? Allora, sì. Tiziano Ferro ha detto: vado in America per provare ad avere un figlio. anche da single. Questa è la novità. Vado in America per provare un figlio anche da single. Che c'è di clamoroso? È straordinario, è bellissimo. C'è di clamoroso. Dici, lo slancio non basta. Beh, te credo, nel caso suo lo slancio non può bastare, diciamo. Non volendosi accoppiare con femmine, lo slancio non può bastare nel caso di Tiziano Ferro. Ma io sono a favore del signor Ferro. Vabbè, Ferro è gay, no? Cioè, sì, signor. Allora, sto frequentando incontri per aspiranti genitori. Cioè, fai incontri per aspiranti genitori. Questo è assolutamente legittimo. Il signor Adinolfi si è trasferito in America, modello Vendola per avere un figlio, immagino, con gli stessi sistemi del signor Vendola, cioè dire con la, non la procreazione assistita, come si chiama? La fecondazione in vitro. Sì, cioè, la, no? Fecondazione l'utero in affitto con fecondazione. Cioè, vuole sostanzialmente mettere l'utero in affitto. Lo sai che cosa? Te lo ricordi che cos'è l'utero in affitto? Come no? No, certo. Sì, c'è una signora che presta il suo utero. Con il seme del signor Ferro, sì. in alcuni casi, in altri no, da cui esce fuori un bambino. Questo bambino viene dato poi a Ferro utero in affitto, certo. O da single, oppure a Ferro e compagno, che in questo momento non ha perché dice di essere single. Capito? Vabbè, che signora Adinolfi scrive su Twitter: Adinolf, seghe nere. Ci ho messo 10 minuti a capire cosa significasse. Devo dire. Cosa vuol dire? Io allora, che non sono molto ferrato nelle canzoni di Ferro, però subito mi hanno detto: come no? Seghe nere. Cioè, sere nere, no? Sai, sere nere. Non ho capito la battuta, chiedo ma scusa. Non hai capito, perché non conosci le canzoni di Tiziano Ferro? Non conosco, sì, no, Tiziano Ferro. Seghe non nere, cioè il prodotto. Cioè, io conosco questo molto bene figlio Gaber, Branduardi. Allora, questo figlio futuro di Tiziano Ferro nascerà da che cosa? Nascerà da una sega. Dice Adinolfi, capito? Cioè dal seme cosa prodotto fare? Bisogna da... ridere? Una battuta, no, bisogna fare? No. No, dimmi cosa bisogna fare, lo faccio. No, dimmi tutto quello bagato, che riguarda dimmi. Minimamente il sesso lo respingi. Dimmi, lo devo fare. Io no, faccio quello che mi dici. L'ha detto Adinolfi, che è uno del mondo ridere, cattolico. Seghe nere. Aspetta un attimo, che affitto una risata. C'è qualcuno che può affittare un attimo una risata? Va bene così? René da Milano, vai René. Ciao Giuseppe. René, vai. Saluto te, saluto anche Parenzo, dimmi, anche dimmi, se mi sta un po' sulle palle. Sì, è reciproco, reciproco. Vai, René, vai. René. Vabbè, niente, volevo dire. Io ho una mia amica Giuseppe. Donna che si chiama René, non un nome. Comunque, vabbè. Giuseppe. Il Ben René, te lo ricordi chi era il Ben René? Il Ben René, ma quello Ben era, come no? Era, certo. Era un bandito. Era un bandito, certo. Della Comasina, la Comasina. Quello era Valanzasca. Era Valanzasca, sì, è vero, era Valanzasca. Certo. Mission de Garbagnà, Garbagnate milanese come della signora Comi. Vabbè, vai avanti, ecco. Dai. No, niente, volevo... Chiamasse volevo uno normale ogni tanto. Dalle parole del ministro Poletti. Lo sappiamo. Cioè, dunque, va bene, senti, va bene, no? Va bene. C'è un sacco di gente. Non si può permettere un ministro, no? Un ministro del lavoro, tra l'altro. Sì, beh, sì, questo è il punto. Di usare quelle parole nei confronti... di ragazzi che vanno all'estero a cercare fortuna, perché qui in Italia ci hanno rotto i coglioni tutti quanti. Ecco, diciamo che questa cosa qui, aspetta, questa tua espressione, per carità, è comprensibile, colorita. Cioè un sacco, sì, colorita e tutto quello che vuoi. Nelle ultime 24 ore, cioè forse 48, da quando sono uscite le frasi del ministro Poletti, ne ho sentite credo 20.000. Cioè va bene, per carità, tu e questo è un microfono aperto, cioè ci sono le linee aperte sempre per ogni cosa, anche a personaggi improbabili. Non dico che tu sia un personaggio improbabile, assolutamente. Sto dicendo semplicemente che stai dicendo una cosa che ho sentito 40.000 volte. Certo. Allora, che ne so, dicessi, ma che ne so, Poletti va impiccato e dici Poletti va impiccato, è diverso. Dunque, cosa vorresti oggi fare? C'è da indignarsi. Ecco, se tu avessi di fronte, scusami caro René, Ben René, se tu avessi, era un bandito. Se tu avessi di fronte il signor Poletti, signor Poletti, ministro del lavoro. No, il signor Poletti, tutto grosso, Lega delle cooperative, col figlio che c'ha l'azienda editrice della, no, la casa che di... sono beccati 500.000 euro. Si sono pizziti, hanno beccato, gliel'hanno dati secondo norme statali, che però per me sono una vergogna. Aum dice che non ha avuto nessun favoritismo per il fatto di essere figlio di Poletti, eccetera, eccetera. Vabbè, comunque dice che si sporca le mani per 1.800 euro al mese, dunque ha uno stipendio secondo lui particolarmente basso. Comunque posso dirti una cosa? Dimmi, Giuseppe. René, ti fa schifo tutto questo a te? Ti fa schifo? Allora, mi fa schifo? Sì. Mi fa ribrezzo. Ti fa ribrezzo. Cosa ti fa ribrezzo? Dai primi di ottobre. Sì. È dalla prima decade di ottobre che ho fatto la domanda per il proseguo della disoccupazione, no? Eh. Ok? Sto aspettando E, sì, e praticamente quando mi arriverà qualcosa, sì, saranno già oltre le feste, per cui sì, io il Natale lo farò con le belle parole di Poletti, capisci? E di Compagnia Bella. Sì, allora? Perché... adesso, allora voglio dire, non è che sei, scusami, abbi pazienza. Adesso, passare un Natale pensando alle parole di Poletti, questo no, francamente no. No, pensando alle parole di Poletti. Senti, incazzato, tu dici: passerò Natale con le parole di Poletti in testa. Senza Danè, no, vabbè, Poletti, ma senza Danè, amico mio. Ho capito, senza Danè, mi dispiace. Vuoi un panettone? No, scusami, no, se tu dico, non è beneficio. No, se no te ne mando uno io. Guarda, ah, ce l'hai il panettone. Sì, vabbè, non mi mandare il panettone, perché fai? Produci panettoni? Non ho capito che fai. Ma tu sei a Milano? Sono a Milano, sì, certo, dove che sia. A Milano, verrò a trovarti, guarda, ti porto un mon cheri. Okay? Sì. Ma perché mi devi portare i mon cheri? Che fai? Produci mon cheri? Non ho capito. Ma vado a comprare mon cheri, perché mi devi portare mon cheri? No, è un omaggio che voglio farti, perché mi sei simpatico, guarda. Ma perché mi devi portare i mon cheri che mi fanno orrore, a me fanno schifo i mon cheri? E allora ti porto, che ne so... Ma non mi portare niente, non ti preoccupare. Cioè, vieni qui al Sole 24 Ore, qua sotto, a dire abbasso i padroni, figli di puttana, pezzi di merda, eccetera, eccetera. Io vengo, fanno schifo, io sono disoccupato, voi siete ricchi, siete degli infami, ladri, luridi, eccetera. Così arriva la polizia, ti arresta e fai una bella figura. Esatto. Peppino, e noi facciamo la trasmissione, proteste sotto il Sole 24 Ore. Esatto. Uno protesta contro gli imprenditori e manda a fare in culo tutti, arrestato. Peppino, io se vengo non so giù però, vengo sto a trovarti. Sì, vabbè, chi te fa passare qua, amico mio? Cioè, no, chi me fa passare? Ma qui i disoccupati non passano qui a queste parti. Mi chiamavano il passero solitario. Ecco, appunto, il bel René. Ciao. Sì, pronto, è Radio Trans. Ah no, è la Zanzara. Vabbè, è uguale, dai. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta La Zanzara. Ascoltatori della Zanzara, avviso importantissimo, Zanzara per il sociale. Si sta organizzando un viaggio con partenza da Milano, direzione Vieste, alla ricerca delle puttane rumene. Ovviamente, ospite d'onore, il mitologico Umberto, colonna sonora del viaggio, i nani. Chi è interessato, mi contatti. E amici miei, siamo al top! Ragazzi, fosse vera questa notizia, la nominerei, direi, donna dell'anno, si potrebbe dire, quasi donna dell'anno, caro Parenzo. Non è questa Joy di cui hai parlato prima, questa donna cacciata da Gorino che poi ha partorito recentemente, credo ieri, oggi, non sì, so l'altro quando... ieri, sì. L'altro ieri, tu sei sempre in ritardo sulla notizia, sempre sull'attualità battente, no? No, ma questa è una notizia, un evergreen, diciamo. La nascita di un figlio delle persone cacciate da Gorino, sì, cacciate sì, da Gorino. Sì, sì, è una notizia importante, allora, certo. Questa qua, fosse vera questa roba, qua sarebbe veramente la persona... No, quella di Gorino, la nascita, bambino, sarà vera. Okay, sarebbe veramente la persona dell'anno, la donna dell'anno. Si tratta di un maresciallo, dal nome... si può dire il nome tranquillamente, si chiama, aspetta un attimo, si chiama, eccola qua. Michela Veglia, come la veglia, Balengero, 35 anni. Allora, questa qua dice, maschio o femmina, la divisa è sempre quella, non chiamatemi marescialla. Vabbè. E effettivamente, se non è che è legittimo, è, come dire, obbligatorio, direi. Cioè, se io fossi un maresciallo femmina e mi dicono... un maresciallo femmina e mi dicono ti devo chiamare per forza marescialla, cioè ci potrebbero essere le circolari anche tra i militari di queste puttanate della Boldrini, capito? Anche qualcuno si potrebbe mettere in testa, beh, va chiamata colonnella, va chiamata marescialla, ma per carità. Anche se la marescialla credo che fosse un bel film con la signora Edwige Fenech. Bravo, molto bene, molto giusto, bene, bravo. Esatto, bravissimo, bravissimo. Già compagna del signor Montezemolo. Vabbè, no? Già, è così, un dettaglio. Cioè, diciamolo, che ci frega, diciamolo. No? Ma perché? Ma diciamolo. Ma è vero, è mica falso. Sì, è ho vero. Capito, però, che mi se ne frega. Ripeto, donna dell'anno, il maresciallo, che qualcuno vorrebbe magari chiamare marescialla, e che dice non chiamatemi marescialla. La lezione del carabiniere alla Boldrini. Del carabiniere, non della carabiniera, del carabiniere. Attenzione, il carabiniere. Poi c'è la questione del sindaco di Milano Sala, su cui bisogna riflettere seriamente. Sì. Come sapete, è tornato. Bisogna riflettere seriamente. Bisogna riflettere. No. Oh, ma cosa? Bisogna riflettere. Una volta che dico. Sui migranti, no? Non me ne frega niente. Su Sala, bisogna riflettere seriamente. Ma vaffanculo, manda i nani, dai, bisogna riflettere seriamente. Ma scusa. No, me ne vado, me ne sono stufato, guarda. No, 19:37, sono stufato. No, ma scusami un attimo, dai. No, ma è nervosito. Scusami un attimo, ti pare normale che per altre indagini tu chiedi di essere sentito come indagato da un magistrato e ti rimbalzano 99 volte su 100 e questa volta chissà perché il signor Sala con l'avvocato ha detto: "Scusi, posso andare dal magistrato a chiarire tutto?" Via subito, tappeti rossi e in due giorni si è ritolto tutto, dai. È una cosa ridicola. Cioè, se ci pensi bene, per carità, è innocente sicuramente. Non me ne frega assolutamente nulla e voglio che faccia il sindaco di Milano per 5 anni. Ma se ci pensi bene, è una cosa ridicola. Spesso succede che quando le persone sono indagate e chiedono ai magistrati: "Scusi, posso venire a chiarire le cose?" No, non si può fare. Cioè, noi decidiamo di interrogare le persone quando vogliamo noi, eccetera, eccetera. In questo caso, dopo due giorni, prima si è autosospeso, che non esiste da nessuna parte del mondo e soprattutto non esiste nell'ordinamento italiano, poi è tornato subito a fare il sindaco perché ha chiarito tutto, dai. All'odore della buffonata o no, caro Parenzo, dillo. All'odore della buffonata o no? No, all'odore della cosa curiosa, perché l'autosospensione non esiste, vabbè. L'autosospensione non esiste come istituto, Salvini. Cioè o sei sindaco o non Salvini. Sei sindaco. Sentiamo Salvinone. Però Salvini stesso lo ha salvato, e Salvini stesso dice: "Continua a fare il sindaco di Milano", quindi ma sì, ma ha ragione su questo, ha ragione perfettamente, continua a fare il sindaco di Milano. A parte che comunque, se uno si deve dimettere per un avviso di garanzia, sommessamente vorrei ricordare che è un avviso di garanzia, che non c'è il rinvio a giudizio ancora. Cioè non c'è neanche il rinvio a giudizio. Non c'è bisogno che lo spieghi. La gente non è cretina. Non è cretina. Chiama, siccome chi chiama è cretino. Ma che c'entra? No, ecco, la grande distinzione. Senti, è c'è un immigrato che vuole il panettone. Senti, Paisel da Bergamo. Dai, prima, sì. Prima sentiamo Salvini, va, che così con l'immigrato va bene. Salvini, vai. No. Si è celebrato il processo in 5 giorni, si è fatto l'accusa, ha detto: "Sono stato assolto, sono innocente, torno a fare il sindaco". Solo in Italia vedi ste robe qua. Solo in Italia c'è un sindaco di una cittadina come Milano che dice: "Ma mi manda l'avviso di garanzia, allora mi offendo, allora non gioco più. Però poi ho visto, allora sono innocente, allora torno a fare il sindaco, dai". Su questa ragione c'è cazzo da fare, una buffonata, ragazzi, è una farsa colossale, dai. Per 5 giorni abbiamo avuto un sindaco di Milano che ha detto: sì, mi autosospendo, poi è andato a parlare col magistrato, tutto a posto, ho capito che è una buffonata, mi hanno rassicurato. Ma se tutti facessero così sarebbe semplice la cosa, no? Cioè, perché ad altri, a lui è stato concesso quello, ad altri viene negato? Dai, su. Ma io non voglio, non ho nulla contro Sala, però mi sembra curioso. Senti questa cosa di Berlusconi, eh? Berlusconi sai che oggi ha detto che è a favore del proporzionale, della legge proporzionale. Sì. Berlusconi proporzionale. Vivendi, sono tanti problemi. Sì, ma perché sa... Io direi proporzionale Vivendi. Proporzionale Vivendi. Le proporzionale alla Vivendi. Vivendi. Alla Vivendi, che non è Vivendio, esatto. Cioè è la no, Vivendi. Esatto, Vivendi. No, quelli che si vogliono pappare gioco meglio, di sì. Parole. Allora, no, Berlusconi. Ecco, ma noi difenderemo l'italianità dell'azienda. Ma me non me ne fotte siamo nulla. Qui per difendere no, l'italianità. No. Al fianco di Calenda, la Zanzara è al fianco di Calenda del governo per difendere un gioiello, un asset italiano. Ma non è vero italiano. Per niente. Ma è venuto bene, chiudiamo qui, 19:40. Ottimo. Siamo con l'azienda perché è un patrimonio italiano contro l'assalto dei francesi che si vogliono papare tutto. No pasaran. No pasaran. Ma tu sei così. Ma io non sono affatto di questa opinione. No pasaran. L'italianità di Mediaset verrà, ma da non è vero, da è impazzito. Qui la dobbiamo difendere, ho già parlato, no con chi hai parlato? Anzi, siamo anche disposti a lanciare una piccola ma non è vero per ma... contribuire a mantenere l'italianità dell'azienda. Ma non è vero, assolutamente sì, no pasaran, francesi state a casa vostra, non passerete qui, non potete comprarvi tutti i nostri gioielli, compratevi le vostre cose, le vostre ordinatore, poi mi stanno sui a me i francesi, voglio dirti solo questo. Sono stato in Francia tempo fa, dicevo: "Excuse me, there is a computer?" "No, ordinateur". Dico: "Come, scusa? Che cazzo?" Dici, in tutto il mondo si dice computer, dico, computer. This, what is this? In faccia gli dicevo: "What is this? This? This is computer!" Insomma, no, monsieur, ordinateur. Monsieur, poi ti rimani in inglese e ti rispondono in francese. No, monsieur, ordinateur. Ordinatore, ordinatore a casa tua, stai a casa tua e non compri le aziende italiane e chiami il computer ordinatore, ma a casa tua, non in Italia. No, ma ragazzi, è tutto sbagliato qua. io lo, è una cosa che già sapevo, l'ordinateur. Io, come sai, io sono già pronto, parlo francese praticamente come un italiano. Che cazzo me ne frega? L'ordinateur. E c'hanno questa cosa qua, è bellissima, l'ordinateur. Perché ordina, no? L'ordinateur. Ma non si può. Una volta avevo un servizio che si chiamava, com'è, le mini... Poletti, ecco, scrive Roberto Poletti. Stasera, ma cosa vuole Poletti? Poletti. Che dice che sei in grande forma, dice, sei in grande forma. Poletti, vabbè, comunque Berlusconi, Poletti. Senti Berlusconi. Perché senti... a me scrive il Poletti sbagliato? Senti Berlusconi, cioè quello di dalla vostra parte. E quello potrebbe dire, io mi vergogno di chiamarmi Poletti. Buono questo qua, eh. Diglielo se... Chiamalo, chiamalo. No, diglielo. Cioè, magari è disposto a dire, mi vergogno di chiamarmi qualunque... Poletti. È disposto a dire qualunque cosa, questo Poletti, non preoccupare. Questo è vero, Berlusconi, dai. Il Mattarellum era un sistema che funzionava e noi abbiamo vinto nel 201 col Mattarellum in un'Italia bipolare. No, amico mio Berlusconi, non è il 201, il 2001. Risentiamo questa cosa che è curiosa. Caro Berlusconi, è il 2001. 201 è un'altra cosa. 201 è dopo Cristo o avanti Cristo, per esempio. Mi sono confuso qui. Un attimo. No, sì, però... È impegnato su 201, Open, no, vivo, però vivo 201. È impegnato a difendere l'azienda. No, ma risentiamo, che è curioso. 201, bellissimo. Il Mattarellum era un sistema che funzionava e noi abbiamo vinto nel 201 col Mattarellum in un'Italia bipolare. 201 è meraviglioso. Paisel, paisa, paisa. Ciao. Paisa, che sei? Non capisco perché questa televisione, sì, questa radio chiamano. Paisal. No, paisal, chiamano Paisal, Paisel. Senegalesi, no, paisal, senegalesi. Questo è positivo. Non riesci neanche a pronunciare un nome marocchino. Paisel, beh, che sei? Marocchino sei? Certo che sono marocchino. Certo, ma non è detto mica. Bravo. Dimmi, dimmi. Ciao caro futuro sindaco di Bergamo, ci auguriamo. Ma è vero, è vero. Ah, no, a Bergamo c'è, cioè, l'ottimo Gori, quindi va benissimo. Magari mazza, i miei saranno... Vabbè, allora che vuoi? Senatore Paisello, può avere il panettone? Sì, vabbè, amico mio, ma che cazzo vuoi il panettone? Il panettone ce li mangiamo, non è che chiama uno, dice voglio un panettone. Oh, te le mangi tutti e 20. Ma sei un morto di fame, tu sei uno indigente? Che non si può permettere un panettone. A me fa piacere, magari se che fai, l'operaio? Non faccio operaio? Non faccio, faccio che operaio, fai? Faccio operaio. Fai non operaio, faccio, fai sì. Operaio. E ti sta sui coglioni bello figo. Ma... Non te ne frega. Faccio una risata e basta. Bravo, bravo. Fai operaio. Comunque fai operaio tu. Ma faccio l'operaio, certo. Sì, tu che operaio fai? Perché disprezzi così la lavoratore? Perito meccanico. Perito meccanico. Perché lo disprezzi così? Non ho capito. Perché lo prendi in giro? Io disprezzo. Perché prendi in giro l'operaio? Immigrato. Marocchino che dico, immigrato, che lavora, che è tranquillo, che ha la sua famiglia, le sue cose, che contribuisce alla ricchezza di questo paese. Ma non sto dicendo. Cosa fai tu, operaio? Perché gli parli così? Perché gli parli così? Ma non sto affatto parlando. Rivolgiti allo stesso modo con quei somari che ogni tanto chiamano. Ma scusami. Somari, Donato, eccetera. Semplicemente. Tu fa operaio? Quello ti risponde. Sì, certo. Vedi? Perché no, ti rivolgi così? Perché ti sto dicendo. Magari io parlo quattro lingue e lui ne parla appena ma una. Ma certo, fratello mio, ma certo. Paisa, certo, fratello mio. Tu parli francese, paisa? Tu parli francese? Bien sûr, parle français. Ah, oui, oui, tu es marocchino, d'origine. Oui, oui, oui, oui, oui. Oui, oui, tu es marocchino d'origine, tu parli francese. Sì, amico mio, però il punto è un altro. Il punto è uno solo. Tu vuoi il panettone e non possiamo dare panettoni a tutti. Se avessi bisogno ti darei un panettone. No, perché tu dicevi che non potevi dare ai immigrati, no? Li mando ho detto, certo, meglio, ma... preferisco darlo ai poveri italiani il o no che siano. Motivo? Ma no italiani, preferisco uno, perché io ho detto non voglio darlo ai profughi di Lampedusa che già sono, come dire, rifocillati dallo Stato. Ma non è vero, ma magari questi qua non hanno mai assaggiato una cosa. Appunto, cioè, mi sembra più, esatto. Ma il panettone lo fanno assaggiare a tutti, più, dai, eh? Lo fanno assaggiare comunque, a tutti. Comunque, siccome 100 sono miei, guarda, alcuni di quelli vorrei mandarli lì. Ma io sono sicuro che Parenzo uno me lo manda. Cioè, facciamo una cosa, guarda, se tu mi mandi un panettone ti mando dei dolcetti magari marocchini. Ma buonissimi, col miele, dolcetti sono pesantissimi, dolcetti marocchini. Tu sei pesante, tu sei pesante. Ma sono pesanti, mica ho detto che sono dei criminali, ho detto che sono pesanti. Non è che ma ho detto che sono pesanti. Ma che pesante, tu sei sì, pesante. Tu sarai grasso sicuramente, paesa. Io? Sì, sarai grasso come grasso, la bestia. No. Sì, mi c'hai la pancia così, pieno di birra. La pancia, sì. Ma perché tu devi trattare così? Birra, ma perché devi parlare così? Birra, le care figlie, fare... No, vabbè, intanto eccolo là, vedi che si scivola sempre. È perfettamente integrato, però mi pare. Mi pare sia Parenzo, perfettamente Parenzo, integrato il ragazzo. Con Cruciani devi parlare solo di questo. Ma no, non è vero, non abbiamo mai parlato di sesso fino adesso. Ma che cazzo dici? Gli tira, cioè, appena tira fuori gli organi sessuali, gli tira a manetta. No, ma vedi che Paisà è numero uno, Paisà, cioè, perché Paisà è uno, un amante del genere. Viva la vita, viva la vita. Io sono musulmano. Musulmano, però tradisci, no. Ma perché devi tradire? No, no, guarda, sì, una famiglia, cioè... Tua moglie, se ti tradisce... Non ero sposato. Tua sì, si dice sempre così, ma tua moglie, quando, se ti dovesse tradire, tu che fai? Ma mi fa un piacere, così la mando via, basta. Beh, questo è buono, eh. Questo è buono. Questo è buono. Mi tradisce, questo, che se... Ho solo io il pisello, si sentono in giro a questo portare. È molto buono, Parenzo. Questo buono, è buono. Allora, perché ti interessano queste cose qua? Molto liberale, un marocchino, un marocchino te, aperto, un marocchino aperto, un marocchino. 28 anni in Italia, ancora marocchino io, 28 anni in Italia. Vabbè, paesà. Ancora cittadino marocchino. Di, non ho la puoi dire tranquillamente, i terroristi islamici mi fanno schifo, lo puoi dire ma chiaro? Ma fanno, non schifo, mi fanno ibrezza, ma quella gente lì. Ribrezzo. Mi fanno ribrezzo, capito? Comunque tu fai operaio, questo è imparato. Io faccio operaio, ma me lo manda questo panettone, sì o no? Ma non lo so, vediamo, anche... lascia l'indirizzo, ciao, sei stato simpatico, ciao, ciao. Allora, abbiamo con noi il direttore di Libero, Vittorio Feltri, buonasera, buonasera. Buonasera a tutti voi. Che trionfo assoluto. Allora... Allora, non frega niente. La conosci l'imitazione di Parenzo? Che ti fa l'imitazione di Parenzo geniale? Che fa... No, non è Parenzo, non so chi sia. Tanto ci introduco. Ma frega niente. A me, dai. Mi avete invitato qui. A Parenzo non frega niente dei soldi. Mi sembra stravagante. poi fa la tua imitazione. Ti faccio sentire dopo l'imitazione che fa del direttore Feltri. Sì, assolutamente. Devi dare un giudizio, sereno. So che Feltri è un uomo di mondo, non è che molto, ma molto spiritoso. Mi fa impressione se uno lo imita, no? Darà un voto all'imitazione. Dunque, pensaci bene, Davide. Devi fare un'imitazione perfetta di quella che hai fatto i primi giorni. Perfetta, dopo, con calma. E Feltri darà un voto finale a questa non c'è dubbio. Allora, abbiamo sentito ieri, caro direttore, il deputato del Partito Democratico, il signor Khalid Chaouki, giustamente, il quale ti ha attaccato a spada tratta, anche eccessivamente, secondo me, perché io ho detto, uno è libero di dire quello che vuole, poi se uno dice delle robe così, ci sono le denunce, c'è la procura, ci sono i tribunali, eccetera, eccetera. Ti ha dato addirittura del nazista, quasi, complice dell'ISIS. No, quasi. Del nazista e del... complice dell'ISIS. Sei accanto all'ISIS, capito? Sì. Accanto all'ISIS. Cosa vuoi rispondere al signor Chaouki? Anche nazista. Tanto per aggiungere un termine ulteriore. Sì, cosa vuoi dire a questo signore, a questo deputato del Partito Democratico, poi signore, deputato del PD? Ma io posso capire che lui non abbia molta dimestichezza con la lingua italiana, però se imparasse almeno a leggere e a riferire quello che ha letto in modo corretto sarebbe già un vantaggio, ma più per lui oltre che per me. In effetti io certe cose che lui mi attribuisce non mi sono mai sognato di scrivere. Lui dice sostanzialmente che tu non dici i terroristi sono dei criminali eccetera, ma dici fuori dai coglioni a tutti gli islamici perché sono incompatibili. Però, peccato che io questo non abbia scritto. Io intendo dire, e lo dico esplicitamente, che coloro i quali vengono qui con la pretesa di farsi mantenere da noi, e lo fanno tranquillamente, senza peraltro avere diritto d'asilo, senza avere esigenze particolari per sfamarsi, eccetera, e poi per tutto ringraziamento ci uccidono, e mi riferisco all'Europa, non certo all'Italia, visto che noi per fortuna fino adesso non abbiamo avuto attentati. Cioè tu non ti riferisci a tutti gli islami, perché lui dice, lui si è riferito a una comunità islamica. Ma chi mai si è sognato di dirlo? Io semplicemente constato che non tutti gli islamici sono terroristi, questo è fuori di dubbio, ma tutti i terroristi sono islamici, quindi avrò il diritto di prendermela con costoro, che peraltro pretendono anche di imporre la loro religione, i loro costumi a noi che li ospitiamo, il che è paradossale. Cioè, tu dici perché che l'Islam se vogliamo fare l'integrazione bisogna che questi signori si adattino a comportarsi secondo i dettami della nostra civiltà. Invece mi risulta che ci sia anche sempre un tentativo di trasformare le leggi coraniche in leggi anche dello Stato italiano. Qualcuno addirittura ha proposto di introdurre i multi matrimoni. La poligamia, vabbè, quello magari non è manco male. Ma io non voglio discutere che sia bene che sia male, ma loro sono ospiti nostri e ci devono fare la cortesia di adattarsi ai nostri costumi. Una donna, una moglie, due o tre giorni fa, l'abbiamo letto tutti sui giornali, è stata massacrata di botte dal marito, il quale poi è caduto dalle nuvole dicendo: ma come, il Corano lo permette? E si è giustificato così. I mariti che pigliano a botte le donne è pieno il mondo, anche italiano. Comunque, attenzione, no, fammi finire, sì. Perché sennò anche da noi ci sono uomini che addirittura uccidono le mogli, e non mi pare che vengano applauditi, visto che è partita una campagna che è sfociata addirittura nel femminicidio. Quindi bisogna reagire alle soperchierie, non bisogna cercare di imporle ai paesi che generosamente ti ospitano. Però diciamo la verità, tu consideri però mi ha scritto un signore che si chiama Abdallah Kabakebji, un dentista, eccolo, senti, già, ecco. È un dentista, vabbè, dentista siriano, bravissimo. Abdallah di Milano, peraltro. Abdallah Kabakebji, siriano, bravo, io non ne conosco dentisti siriani. Comunque, ma vabbè, perché devi diffamare della gente? Io vado da un dentista, vado da uno che si chiama Abdallah Kabakebji, ecco Razzistello. Ma no, ma non ci vado da uno. Comunque non ci vado. Tu ci andresti da un dentista siriano che si chiama Kabakebji? Ma c'è un dentista bravissimo, laureato in Italia, dove devi andare? Vittorio, tu andresti da un dentista siriano? Non lo so, boh, cioè. Guarda, io quando vado dal medico non guardo la testa. Ma sei uno bravo, mi interessa solo che mi guarisca. Poi può essere anche un terrorista islamico, ma non me ne frega niente. Mi dà invece fastidio quando qualcuno di questi signori si trasforma in terrorista e combina quello che sappiamo. E se non ho neanche il diritto di definirli bastardi e di dire loro di andare fuori dai coglioni, non solo, ma poi leggo l'intervento di questo Chauki, sì, il quale dice che dovrei essere processato, sbattuto in galera, chiudere il giornale, menzogne sul nostro giornale dicendo che sta fallendo. Tutte cose che meriterebbero una causa civile e sarà. Cioè lui ha detto chiaramente, guarda, ieri qua ce l'ho qua sotto il naso. Cioè guarda, non ho modificato una parola di quello che è uscito là. È solo un giornale che sta fallendo e tenta di vendere qualche copia in più facendo questa diffamazione. No, quando io dico che gli assassini dell'Islam e coloro i quali vogliono imporci i loro costumi sono dei coglioni. Ma scusate, questo, ma come si deve sentire il figlio Vittorio? Ma scusami, intanto aspetta, Abdallah Kabakebji scrive: vorrei cogliere l'occasione di augurare a Feltri un buon Natale e un felice anno nuovo 2017, magari più cristiano e sereno del 2016. Ma perché uno non può dire che chi è che lo scrive? Abdallah Kabakebji. E chi cazzo è? Io Marco lo conosco, lo ringrazio per le gentili espressioni, ma stiamo parlando dell'intervento di Chauki e tu mi tiri fuori Abdullah. Perché c'è una parte che è la maggior parte sana dell'Islam che vive qui, che è integratissima, che dice cerchiamo di chi ce l'ha con loro? Ce l'hai tu? Io non ce l'ho con loro. Ma hai già bevuto a quest'ora? Scusami, tu però dici che l'Islam è una religione sostanzialmente di violenza, appunto, cioè che dentro l'Islam c'è, ma questo si può dire anche qui, ma si anche può dire cosa? Che dite? A parte che io non l'ho, questo non l'ho scritto nell'articolo che commenta Chauki, non è scritto, quindi se lui si attiene a quello che ho scritto può farmi tutte le critiche, ma non insultarmi e attribuirmi concetti che non ho espresso. Cioè lui dice ha accusato un'intera comunità fuori dai ma coglioni. Ma non è vero, ma l'avete letto il mio articolo, leggetelo e vedrete se io dico queste cose, non è assolutamente vero. Senti, Davide, comunque Abdallah Kabakebji, ma chi se ne frega di Abdallah Kabakebji? Io mi metto nei panni dei figli, siccome lo ma conosco. Ma secondo te, scusa Vittorio, l'Islam se è uno una legge quell'articolo del direttore Feltri e quel titolo che contro dice che i terroristi e i fiancheggiatori dei terroristi e chi vuole imporci le loro regole, ma vanno sbattuti fuori dai coglioni, non mi sembra una cosa ma se uno dice che tutti gli islamici sono terroristi, ma non l'ha detto, dice lui sostiene di non averlo detto. Ma io non l'ho detto, ma c'è questo Parenzo che stasera non sta bene. Ma sto benissimo. Forse o chiami l'ambulanza o chiami gli infermieri, qualcosa, perché non puoi arbitrariamente attribuirmi cose che io non mi sono neanche sognato di scrivere. Comunque il mio dentista è siriano e si chiama Mufti, è il numero uno allo studio vicino Re di Roma, a Roma. Dunque in realtà i dentisti siriani pare che siano anche quotati. Sì, diciamo, ma a me che mi importa, non è la questione di stasera, non è se c'è un bravo dentista siriano. No, è che c'è un deputato del PD. Egiziano. Se proprio vi può far piacere, io la sera vado a cena spessissimo, qua, due o tre volte alla settimana, nel un ristorante di Milano che si chiama Lo Scalino, che è gestito da un egiziano. Ma che me frega se è egiziano? Importante che è buono, importante fa bene da mangiare e non ammazza la gente. Per me è una persona carissima. No, ma l'idea quando Abdallah Kabakebji che non ce l'hai, no? Ma allora, no, aspetta, tu, scusa, cioè, Cale, il deputato del PD dice anche, questo è abbastanza nella polemica, ha detto delle cose pesantissime, ha detto sono ragionamenti si sente offeso, sono ragionamenti offeso da nazista, per i suoi figli il nazismo ragazzi, il nazismo, che c'entra il nazismo? Perché dice che il nazismo non è un'opinione, cioè quella di Feltri non è un'opinione, è solo razzismo e incitamento all'odio, questo dice, caro. Ma è che certo io col nazismo, questo non ho capito. E poi aspetta che il giornale sta fallendo, eccetera, eccetera, anche questo. E questo non è vero, ma dovrà rispondere in sede civile, ma non a me, ma agli editori di Libero, non saranno contenti di essere diffamati in questo modo. Allora, torniamo tra un attimo perché vogliamo parlare anche di Poletti, sennò gli immigrati dopo un po' ci hanno rotti i coglioni. Mi scusi. Sulle rive del fiume c'è solo Renato Brunetti. La Zanzara. Allora ragazzi, abbiamo con noi Vittorio Feltri, direttore di Libero. Però un'ultima domanda sulla questione religiosa gliela voglio chiedere, che è questa. Secondo te l'Islam è una religione? Giustamente Abdallah Kabakerji. Quello che mi dispiace è che Feltri sembra dimenticare che la lotta contro il terrorismo è una lotta comune e il suo linguaggio invece non aiuta. Ma perché? Il linguaggio della non verità? Non è comunista, vuoi dire? Non è comune o non è comunista? Però ti sento un po' chiuso. Tu fai dei discorsi comunistelli, io invece no. Io poi tu mi dici che come dovrei comportarmi, quale etica dovrei sposare, no, ma tu pensa alla tua, per favore. Io agisco come voglio, rispettando le opinioni degli altri, certo. cosa che non fa questo Ciauchi e che non fai neanche tu, e questo un po' mi dispiace. No, perché non è vero, io figurati. Sono sempre contento di parlare con te quando anch'io. Ti comporti in modo civile. Anch'io, allora ragazzi, sempre, quando figurati. Uno esprime un'opinione anche forte, anche decisa, io ho letto bisogna di Abdallah Kabakerji. In America esiste, non dico che è la posizione di Feltri, in America esiste, come sai, il Ku Klux Klan, che ne dice di tutti i colori. Non è la posizione di Feltri, ovviamente, sto facendo un paradosso. Non si capisce perché da noi non può esistere una minoranza barra maggioranza, poi in realtà in alcuni casi, che si esprime in maniera anche dura sull'Islam politico, sull'Islam che uccide, sull'Islam che vuole sottomettere le donne, eccetera, Abdallah Kabakerji che vanno a scuola, cioè i figli del siriano italiano, ma sono italiano cazzi loro che vanno a scuola, ma che me ne frega, vanno a scuola e leggono sul giornale, ma che gli islamici sul sono giornale, terroristi, ma da, ma certo, e come islamici ci rimangono? Scusa, come l'Islam, allora domanda finale, l'Islam è una religione di violenza secondo te, Vittorio? Ti faccio solo notare questo, sì, che ogni volta che c'è una strage, mi riferisco a quella di Parigi, a sì, quelle di Parigi, quasi tutte, sì, gli assassini agiscono, e lo dicono espressamente, nel nome di Allah. Non sì, mi pare che Allah sia San Giuseppe. Allah è il Dio di questi gentilissimi signori, ma se uccidono in nome di Allah, beh, è difficile negare che si tratti di una guerra di religione, che mi fa pensare che il seme della violenza probabilmente esiste già nei sistemi dottrinari. Mi fa pensare, ma io non è che mi ho studiato a memoria il Corano, no, per nessuno amor di noi, Dio, nessuno, però sappiamo, basta aver letto qualche libro, che effettivamente nel Corano esistono frasi truci esattamente come nella Bibbia, prima bravo, maniera. Esatto. Peccato che la Bibbia sia stata accantonata, secondo i cristiani, con l'intervento di Gesù Cristo, che in effetti ha fatto scrivere sì, la nuova Bibbia, cioè il Nuovo Testamento, e quindi noi, avendo poi avuto anche l'illuminismo, separiamo nettamente la politica dalla religione. Questi signori non lo fanno neanche nei loro paesi, ma così, allora dai, come si fa a negare queste cose? Che ci sia un legame con la religione in queste cose qua, dai, mi pare altro che legame, applicano la legge coranica, ti impiccano se sei frocio. Questo voi, insomma. Allora, però andiamo sulla questione. Se impiccassero i froci d'Italia, succederebbe, tutti gli alberi di Milano non basterebbero. Addirittura, vabbè, adesso questo. Milano non ha l'esclusiva dei froci, però. Ecco, poi. Anzi, da questo. No, già, ma però dagli alberi, sì. Allora, caro Vittorio, ma oggi è raffreddore. Filtri, oggi è raffreddore, però è bello. Per Feltri con raffreddore, devo dire la verità, che no, dal punto di vista sonoro, invece, no, è vero, per carità, dispiace, non è che è morto. No, mi dispiace, se uno sta male, mi dispiace. Ma sì, ho capito, non sta morendo. Parla al telefono tranquillamente, mi sembra piuttosto attivo. Vabbè, il raffreddore capita a tutti. Vorrei rimandare l'appuntamento col cimitero. Allora, il cavaliere oggi ha detto delle cose, mi pare. Il cavaliere chi? Berlusconi, ha detto delle cose chiarissime, caro. Draghi sarebbe perfetto come prossimo presidente del Consiglio. Dunque, vuole un governo delle larghe intese. Vuole il proporzionale, perché solo il proporzionale può, diciamo, governare. Ha detto anche che Gentiloni è molto meglio di Renzi, è un gran signore. Gentiloni lo sta appoggiando nella vicenda Mediaset. Mi sembra un Berlusconi che ha parlato in maniera molto, molto chiara. Senti, tu nella vicenda Vivendi fa bene ad opporsi oppure è il mercato bellezza, Vittorio? Ma sai, Berlusconi ha sempre agito in un ambiente di libero mercato, tant'è vero che quando c'è stato un ostacolo ai tempi di Craxi, immediatamente Craxi intervenne per eliminare l'ostacolo, non per eliminare il mercato libero, non so se mi spiego. Sì, certo. E per tutta la vita Berlusconi si è comportato secondo questi criteri, tant'è vero che si comprò quasi tutte le piccole televisioni alzando i prezzi dei prodotti e quindi praticamente costringendo i proprietari delle piccole TV a vendere, e questo si chiama libero mercato. Se tu pratichi il libero mercato, poi non ti puoi incazzare il giorno in cui il libero mercato pare che ti danneggi. Io questo non l'ho capito. Sì, poi effettivamente è chiaro che Berlusconi parla in modo ben preciso in questi giorni, perché lui, quando deve trattare dei propri interessi, è assolutamente un campione, un fuoriclasse. Però sappiamo cosa sta chiedendo l'appoggio per non mollare i francesi, eccetera. Noi domani dedichiamo tanto spazio a questa cosa e il titolo è Silvio salta di là. Salta di là, cioè salta col governo. Dove vuoi che salti? Ma ha detto in maniera chiara: Gentiloni all'estero è molto apprezzato. Mentre Salvini, il suo potenziale alleato di Berlusconi, spara a zero contro Gentiloni dicendo che è un clone di Renzi. Berlusconi dice che è un uomo per bene, al contrario di Renzi, che invece è arrogante, eccetera, eccetera. Cioè, mi sembra una scelta di campo abbastanza chiara. Anche quando dice Draghi, che la persona, probabilmente che Salvini, il suo principale alleato, non sopporta le banche, le cose, cioè, lui dice sarebbe perfetto come prossimo presidente del Consiglio. Che significa? Un governo delle larghe intese, c'è poco da certo fare. Non solo, anche perché a Salvini non conviene allearsi con Berlusconi, perché perderebbe molti voti, perché diciamo che l'operazione alleanza Lega Forza Italia è già stata messa in onda e abbiamo visto che fine ha fatto. Quindi senti, un'ultima cosa, il déjà vu non giova ai volti nuovi come quello di Salvini, in teoria quello di Salvini. Senti, un'ultima cosa, Poletti tutti lo attaccano, ci trovi qualcosa invece? Roberto Poletti è un altro non lo attaccano. Quella cosa che ha detto, diciamo, è stata infelice nel linguaggio. Però perché dire fuori dai piedi è come dire fuori dai coglioni. Se lo dico io fuori dai coglioni, per Ciao Wilson, se lo dice Poletti, insomma, si prende per valido tutto il discorso che ha fatto, come se volesse parlare del sedere ai giovani italiani. Non è così, certo che l'espressione è stata infelice e si merita gli attacchi e se li porta a casa. E si dovrebbe dimettere, perché poi si è scoperto che pure figlio... Mi sembra eccessivo, qui anche per uno starnuto uno dovrebbe dimettersi. Dovrebbe dimettersi invece quella signora che si chiama Fedeli, ma non perché non era laureato, chi se ne frega. Per i capelli lì bisognerebbe arrestare quel criminale del suo parrucchiere. Quello subito andrebbe fatto. Ma invece lei dimostra di non avere nessun buon senso, perché voler introdurre nelle scuole la cultura di genere è un'operazione idiota, visto che esiste già il Ministero delle Pari Opportunità. Ma soprattutto visto che già basta aprire internet e comporre gender e uno legge tranquillamente cosa vuol dire, chi se ne frega. Non è che ci vogliono i professori di gender, mandate. Le tabelline che non le sanno, e la geografia, che se chiedi a un ragazzo del liceo dov'è Teramo, non sa cosa ma non sia c'è Teramo. Bisogno di un professore. Torrone Teramo. Ciao Vittorio, buona serata. Ciao direttore. Allora, Lanfranco da Vicenza, vai. Lanfranco. Ciao Giuseppe. Dimmi. Presidente del Consiglio lo farei Feltri. Beh, adesso lo esageriamo, non penso che punti a fare il presidente del consiglio, eh. No, lo so, però uno così anche perché ormai si guadagna poco. Hai visto Renzi quanto guadagnava? Circa 100 per i criteri di Feltri, naturalmente 130, ma 140. Sai cosa ha Feltri, però ultimamente lo sento che si scioglie, cioè si sente libero di dire qualsiasi cosa gli viene per la testa. Una volta lo vedevo un po' imbrigliato. Ma chi dici? Feltri, questo da un po' di tempo. Dimmi, Lanfranco, mai visto imbrigliato a Feltri, francamente. Dimmi, Lanfranco, sì, un po', sì. No, volevo dirti, negli ultimi anni si è un po' liberato, diciamo, dai. So che non sono il primo, magari non sarò neanche l'ultimo, sì. Beppe, però la settimana scorsa quando avete chiamato la vecchietta lì, tu vabbè, lo so, sei stronzo di natura e ci sta, ma quell'altro mio, essere... questa trasmissione, ho capito, quell'altro essere... Quell'altro essere che c'hai lì di fianco... Di chi parla io spero che di ti dia delle royalty... Questo? Spero che ti dia delle royalty, Giuseppe, perché tu l'hai tirato fuori dal nulla. Ma no, veramente no, questa è una cazzata che dite, ragazzi. David Parenzo, se non potevo difendere io. Per una vita ha fatto il professionista, secondo me, di ottimo livello, in una trasmissione, facendo una trasmissione a Tele Lombardia che si chiamava Iceberg, che è stata fondata da un altro grande giornalista, e faceva una grandissima televisione, magari, come dire, a livello locale, naturalmente, ma cosa che non vuol dire nulla, assolutamente. Quindi che state parlando? Ma parlate di cazzate. Bello che ho chiuso con questo tuo epitaffio mio. Ma sì, ce l'ho tirato fuori io. Ma che cazzo dite? Ma sono puttanate, dai. Sto parlando di uno che ha una voce inascoltabile. Ma non vuol dire, ragazzi, ma questo qua è il tuo giudizio. Ma ci sono voci. Questo può anche essere. Ma non c'entra niente. Tu la pensi così? Chi striscia non inciampa. Che com'è la storia? Come? Chi striscia non inciampa. Che vuol dire? Chi striscia non inciampa. Vuol dire che è un verme, sostanzialmente, no? Questo intende un serpente. Un verme. Vuol dire che è uno che è sempre lì che vabbè, però tu ci volevi attaccare. Cioè, è sempre lì quello sicuro, per fortuna. Ma che viaggia a risico, che viaggia a risico. Ma che vuol dire viaggia a risico? Che sta sempre sul bordo, non prende mai una posizione precisa. Veramente, non mi pare. Scusami, però, Lanfranco, sugli immigrati e su queste cose qui, prende posizione. No, vabbè. Su altre cose magari no, o perché non la pensa, non ha un giudizio. Scusa, adesso non mi devo mettere a difendere io, Parenzo, scusa. È anche paradossale, ma assurdo. Ma infatti lo a me vabbè, Lanfranco, cosa coglione, Lanfranco, come si è comportato con la vecchietta? Lanfranco, anch'io mi sono comportato male. Abbiamo chiesto scusa, non sei il portavoce delle vecchiette. Ci puoi attaccare? Non ci lo puoi sono, ci puoi dire che sei maleducazione. Siete stati squallidi. Vabbè, siamo stati squallidi. Lanfranco, può darsi che tu abbia ragione. Abbiamo chiesto scusa, dimmi, rispondi. No, voglio dire, Lanfranco ha una famiglia, ha degli affetti, delle cose che lo rendono felice, Lanfranco. Ce li ha, Lanfranco. Meno male. Bene. E allora buon Natale, buone feste, stia sereno. Vedrai. Grazie anche a te, ecco, David. Bravo. Anche a te. Alberto da Milano, vai Alberto. Tanta fortuna le auguro. Ragazzi, ma che è diventata Radio Maria? Oh no, tanta fortuna gli auguro, guarda. Alberto da Milano, dai. Tanta fortuna. Ciao Gianni. Dimmi. Ascolta, io volevo proporre di boicottare Tiziano Ferro. No, ragazzi, boicottaggio ecco Tiziano Ferro. No, ecco. No, ma aspetta, ti spiego perché. Dimmi. Perché allora io concepisco quelli che hanno bisogno, cioè sentono il bisogno e il desiderio di un figlio, non riescono a farlo e si rivolgono, diciamo, a un figlio improvetto, che siano persone dello stesso sesso, persone di sesso diverso, non importa, quello però il figlio è l'incarnazione di un amore, di un desiderio che scaturisce Alberto, dalla... come sai, quello io sono come, terra, come sai, no, ma Parenzo è probabilmente anche d'accordo con te. Cioè, è anche d'accordo con te, Parenzo, certo. È anche d'accordo con te. Cioè, pensa che la pratica che vuole fare, immagino, Tiziano Ferro, a meno che non voglia adottare una persona, ma non credo, in America sia una cosa da rifiutare. Ed è legittimo dire. L'ho detto più volte. Io invece, che sono una persona liberale, radicale, libertaria, esperanto. No, adesso l'esperanto non c'entra nulla. Sono a favore della pratica. Mi sfugge il cazzo di termine, dell'utero in affitto. Sono a favore del fatto che una donna, anche se con bisogno economico, affitti il proprio utero per dare il figlio ad un altro. È una cosa terribile. Penso che sia una cosa. È una come cosa fare terribile. La puttana. E se tu sei a favore della prostituzione, io sono a favore della prostituzione, è praticamente la stessa cosa. Dai, diciamoci la verità. È lo stesso. Cioè, c'è il diritto a affittare il proprio corpo, affittare, a usare il proprio corpo anche per campare. E anche per campare bene. Se uno vuole fare un figlio, due, tre figli, e darli ad una persona che vuole avere un figlio e in cambio ti danno 20, 30, 40 mila euro, benissimo. È terribile. Benissimo. È terribile. Ti dirò la verità. È ti dirò la verità. Terribile. Meglio te lo dico così io. Che gratis. Meglio così di quelle che lo fanno per, come dire, per liberalità, perché sono contro l'aborto. Molto meglio quelle che lo fanno perché lo vogliono fare per soldi. Molto meglio quelle. Io non sto discutendo del fatto che la donna lo possa voler fare per soldi. Io sto dicendo che quello che fa Tiziano Ferro è come se io. A parte che non lo sappiamo che vuole fare, lo possiamo presumere che lo vuole fare. No, appunto, dico, ma io non discuto di della volontà della donna. Io dico, così come un pomeriggio d'estate esco e ho voglia di mangiarmi un gelato, quel pirla un giorno si alza e dice, ta, ho voglia di un figlio, me lo vado a fare da solo. Cioè, questa roba è inconcepibile. Ragazzi, ma non è che ci sia una cosa di massa, anche perché ci vogliono i denari, i soldi, andare in America. C'è chi se lo può permettere. Sì, è vero, è una roba da ricchi. Allora, i ricchi si ma possono... Ma non è neanche una roba da ricchi, è una roba da coglioni. Vabbè, ma è una roba da coglioni. Ma ognuno, ma insomma, se uno vuole avere un figlio anche da solo, ma saranno cazzi suoi o no? Mette al mondo una vita umana, la mantiene. Ma cosa cazzo volete? Non ho capito. Ma perché dovrebbe essere un infelice? C'è tanta gente infelice che nasce da coppie normali, che consideriamo normali, eterosessuali. Non si capisce perché questo qua, che nasce dal fatto che ci sia un, in questo caso, un cantante come Tiziano Ferro, che vuole fortissimamente un figlio, no, va in America, mette il suo sperma dentro un corpo che non conosce, prende sto figlio, lo mantiene, e questa prende i soldi, tutti hanno un guadagno. Qual è il problema? Il figlio resta sconvolto nel... Ma chi l'ha detto? Ma che dite? Non è vero, dipende, magari resta sconvolto il figlio. È sconvolgente l'uso dell'utero della donna, sconvolgente. Ma per carità, è legittima questa opinione, perché non sai cosa può voler allora dire. Allora dovresti essere contro la prostituzione. Infatti tu sei contro la prostituzione. Infatti, in parte, sono per la legalizzazione della prostituzione, ovviamente, però... Un attimo. Sì, pronto, al consultorio? Ah, è la Zanzara? Vabbè, uguale. La Zanzara. Crociani, un mio amico, quando andiamo a fare colazione al bar, prende sempre la brioche vegana, ma non perché gli piace, per levarla ai vegani è al top. Allora ragazzi, cominciano a girare tesi complottistiche sulla strage di Berlino, caro Parenzo. C'è chi dice, ma anche su quella, dell'ambasciatore russo, non so se hai letto. Secondo molti non ci sarebbero tracce di sangue, le palotte. No, non leggo le minchiate, guarda. Mi rifiuto di leggere le minchiate. Io farei una dall'11 settembre in poi ho sentito, vabbè, letto minchiate, talmente ragazzi, tante. Tutto va pesato, tutto va forse pesato. Forse no, chiedo scusa, avevo usato un altro termine. Ho letto talmente tante puttanate. Sì. Talmente tante puttanate mega galattiche. Sì. Talmente tante puttanate super mega galattiche che non hanno neanche diritto di tribuna, cioè allora, tu non, ragazzi, puoi però... ospitare il delirio, capito? Però, cioè, ragazzi, tu ma non è vero, tutte le cose invece vanno pesate. Sì, ma la gente, cioè bisogna tutte dare le cose fonti vanno... autorevoli, vere, ma no, ma alle cose, autorevoli. Non allora... il primo che su Twitter dice non mi sembra che le elettori gemelle non siano cadute. Vabbè, fa quello che c'entra. Per esempio, chiamiamo Giulietto Chiesa. Ecco, un altro buono. Giulietto Chiesa, vediamo dove sta soprattutto, perché spesso sta a Mosca, a Roma, si sposta in varie parti del mondo, sentiamo. Sì, pronto? Pronto, Giulietto? Pronto, sì. Ciao, sono Cruciani. Volevamo rubarti 5 minuti sulla storia di Berlino, se puoi. No, sono a Belgrado in questo momento, mi costate troppo. No, ma dacci un numero fisso. Non c'è un numero fisso, aspetta un momento. Aspetta un istante. Bellissima Belgrado, Danubio, meraviglioso. Grandi ristoranti, stupendo. Oh, belle donne, soprattutto serbe, stupendo. Cattive, molto dure. Cattive, sì, molto cattive, sì. Dure, sono. No, cattive, dure. Serbe molto cattive, sì, dure. Aspetta che adesso lo do, Sì. Allora, 00 sì. 26. Chiamo subito, ciao. Bravi, bravi. Dopo che vi ho fatto cenno avete subito bippato, Ho detto, ragazzi, bippate il numero, sennò questo qua manco si è reso conto che sta in diretta. Signor Chiesa. Bravi dalla regia, prontissimi, molto, caro. Molto bravi, molto bravi. Richiamiamo, dai. Il numero che ci ha dato, Numero serbo, numero serbo. Hello? Sì, cercavo Giulietto Chiesa. Giulietto Chiesa. Sì. Sì. Signor Chiesa. Eccomi. Amico mio, che si andava a fare belle donne a Belgrado, Belle donne a Belgrado. Ottimo Belgrado. Vabbè, non vogliamo farci gli affari tuoi. Ho sentito. Bellissima Belgrado, meravigliosa, bellissima città. Sì, Bella città. Ma che ne pensi di quello che è successo a Berlino? Sì, è tutta una farsa, è tutta una finta, non è quello che pensiamo, cioè i documenti ritrovati addirittura con i permessi di soggiorno, con i nomi, che dici? Quello che noi ne pensiamo credo che sia molto lontano dalla verità, tutto lì. Cioè quello che viene fuori... Io la includo nella serie, l'assassinio dell'ambasciatore russo ad Ankara e l'evento di Berlino sono due cose che vengono da due centrali diverse. Due centrali che sia, due spectre praticamente. Due centrali di organizzazione terroristica che non coincidono, sono due cose diverse. Cioè per esempio Berlino, partiamo da Berlino. Berlino io la colloco all'interno della serie che comincia con Charlie Hebdo, va avanti col Bataclan, poi con Nizza. Terrorismo islamico si chiama, ISIS, si chiama. Se si chiama terrorismo islamico allora vuol dire che immediatamente chiama in campo le responsabilità dei servizi occidentali. Cioè perché secondo te No. Mi viene da piangere quando sento queste questi complotti. Scusami, non piango. Devi piangere perché se ti viene da piangere vuol dire che non hai capito niente di quello che succede. Mi viene da piangere, Luciani, quando sento queste cose. L'avete data voi la notizia? No, io faccio una domanda ai primi giornalisti. L'avete data la notizia che sono stati catturati almeno 14 consiglieri dei servizi segreti occidentali ad Aleppo? L'avete data? No, non mi sembra. Che vuol dire questo? Non l'avete data. Ma che vuol dire questo? Non l'avete data. No, vuol dire semplicemente che se i servizi americani, israeliani, turchi, arabo-sauditi, qatariti stavano ad Aleppo in un bunker dove consigliavano i terroristi jihadisti nelle loro azioni militari, vuol dire che c'è un rapporto molto diretto tra i terroristi e i centri dell'organizzazione militare. E questi signori che hanno fatto l'attentato col camion, no? Ma da chi sono mandati allora? Cioè, ma lo chiedi a me. Stai dicendo che si sa tutto. Chiedetelo ai vostri servizi segreti. Ma sono anche i tuoi, sei italiano tu, che sei? Non è che sei... Io sono italiano, ma non sono per quei servizi segreti, a parte il fatto che per fortuna l'Italia ad Aleppo non è stato trovato nessun italiano. L'attentatore di Berlino, chiunque esso sia, è comandato dai servizi segreti, tu dici? È un uomo dei servizi? No, io dico semplicemente che ci sono dei collegamenti, questo sì. Questi sono incontestabili, cioè una spectre, sono incontrovertibili. Tu hai detto una spectre, scusa, una specie di organizzazione che manda questi qua per terrorizzare l'Europa, questa è la sostanza. Ci sono 100 basta studiare, guarda, si chiama Califfo. Un po' di libri. Si chiama Califfo. Certo, e chi ha pagato le 15.000 Toyota? Chi ha pagato le 15.000 Toyota che sono state date all'esercito? Ma hanno degli stati canaglia che gli riforniscono di armi, denaro, ma mi pare evidente. Ma chi sono questi stati canaglia? Ma c'è il Qatar, c'è l'Arabia Saudita, ci sono tutti i paesi che... Però torniamo al punto, scusami Giulietto, se no ci perdiamo. L'attentatore di Berlino, da chi è teleguidato? Ci potrebbe essere un'organizzazione dietro? Io colloco questo attentato di Berlino nell'ambito della serie di attentati che sono stati organizzati da un centro di comando. Come lo chiameresti? Lo chiamerei un centro... terroristico, come lo si vuole chiamare, che sta progettando dove i terroristi non sono soltanto islamici, c'è un sacco di gente che c'ha i passaporti occidentali in quel centro terroristico israeliani. L'ambasciatore russo da chi è stato ucciso? Immagino che sia stato ucciso, in questo caso è più facile rispondere, i jihadisti che sono stati sconfitti ad Aleppo si sono vendicati uccidendo l'ambasciatore russo che è stato il rappresentante, che era rappresentante del più importante paese che li ha sconfitti militarmente. Ecco, una vendetta. Vedi che bella combinazione che viene fuori. Viene fuori che i terroristi colpiscono simultaneamente la Russia e l'Europa, cioè colpiscono da tutte e due le parti, il che vuol dire che teoricamente si potrebbe affermare che la Russia è un'alleata dell'Europa contro il terrorismo. E dunque i responsabili chi organizza Stati Uniti, Israele, eccetera. Chiedetevi voi chi organizza questo terrorismo. Vabbè. Chiedetevelo voi. Sì, ma non so, ma cosa... le informazioni che raccogliete. Si chiama Califfo al-Baghdadi. Califfo lui dice al-Baghdadi è finanziato da israeliani, americani, pezzi di servizio americani, israeliani, eccetera. Ma come si fa a dire che il Califfo fu finanziato da Israele e dalla CIA, ragazzi. Ma non dice da Israele, da pezzi dei servizi israeliani, americani, detto, forse anche altri, sauditi. Che so con certezza, quello che sappiamo con certezza è che al-Baghdadi è stato finanziato dall'Arabia Saudita e dal Qatar e che i servizi segreti dell'Arabia Saudita e del Qatar sono delle filiali, ribadisco il termine, sono delle filiali della CIA americana. Quindi se qualcheduno poi Mossad, vuole sentire Mossad pure, detto, Mossad pure, ma naturalmente Mossad è direttamente collegato con la CIA, non c'è il minimo dubbio, chiunque lo sa. Ciao, ti saluto Giulietto, ciao. Arrivederci. L'attentatore di Berlino collegato al Mossad. In sostanza ha detto questo il signor Chiesa. Io ecco ti assicuro che non. Da Belgrado. Ma no, ma lascia stare dov'è, ma beh, Belgrado va benissimo. Come si fa? Angelo da Milano, vai Angelo. Ragazzi, Angelo. Alle 20.30 avremo Cipollino, il mitico Boldi, sulla ottimo. Grande polemica dei cinepanettoni. Sai che praticamente tutti hanno stroncato i cinepanettoni che sono nei cinema, dicendo che sono una boiata pazzesca, dicendo che non c'è nessuna novità, incassano come poco, ce ne sono troppi, eccetera eccetera. Il mitico Boldi fra poco qui a Radio 24 alla Zanzara. Vai Angelo. Allora, va detto chiaramente, senza mezzi termini, secondo me. Sì. Chi dice qualcosa contro Bello Figacù è un emerito demente. Come direbbe qualcun altro, è una faccia di culo. Vabbè, adesso perché non esageriamo, si può pure criticare quello che dice il signor Bello Figo. Non è che sia il Papa, cioè, che pure è criticabile. Attenzione, non può dire quello che gli pare. Carità, ognuno ha la libertà di dire quello che gli pare. Chi mi fa veramente incazzare è la gente come Mussolini, capito? È la gente come Belpietro, che lo chiamano in televisione e poi ma si lamenta. Belpietro conduce una trasmissione, stava lì a fare da pacere. Ma cosa a fare da pacere? Stiamo parlando di una persona sulla quale noi si rideva in terza media, penso, primo liceo, perché faceva le canzoni sul fatto che si faceva le seghe. Cioè, noi abbiamo invitato in prima serata con la Mussolini, Belpietro, il vabbè, allora sovrano, ad urlargli contro, cioè, un ragazzo a te che piace fa le seghe. Chiunque parla di Bello Figo Gu senza farsi una sonora risata, ma prendendolo sul serio, è lui il vero fautore. No, questo è lui quello che fa questo veramente non c'è male dubbio. Agli immigrati. Cioè, Angelo, ciao, ho capito benissimo. Luigi da Torino, vai, Luigi. Comunque è vero che trovano sempre documenti dei terroristi, Parigi, Bruxelles, Berlino. È abbastanza strano che trovino sempre dei documenti di questi qua, Parenzo. Mi dirai adesso, che è strano o no? Mi ecco dirai... No, ma dico, ecco dico solo che è strano. È cosa strano. Vuol dire che è strano? Trovano i documenti. Cosa vuol dire? Trovano i documenti, addirittura i permessi di soggiorno, quello che è, cioè la richiesta dei permessi di soggiorno. E cioè, quindi? No, andiamo di solito avanti, i terroristi... Quindi... Vabbè. I terroristi rivendicano, no, di solito un corno, di solito questi terroristi, siccome vogliono rivendicare la loro appartenenza al jihad, dice, ma non dico nome e cognome, vabbè. E si vogliono sapere, esatto, perché siccome il loro martirio deve essere riconosciuto da quella parte malata della comunità, non si nascondono, cioè non sono terroristi che si nascondono e che vogliono far sapere Luigi, chi sono. Luigi Torino, vai. È strano che ci sia, ma Luigi, aspetta. Posso intervenire? Sì, vai, Francesco, dimmi. Francesco. Allora, volevo parlare per il ministro Poletti. No, questo qua che mi sta chiamando, non capisco perché. Ma che cazzo me ne frega? Francesco, mi sta chiamando? Allora? Allora, io ho due figli che lavorano all'estero, sono immigrati all'estero. Allora? Ma io sono contentissimo che sono andati all'estero. Almeno fanno un'esperienza. Il ministro Poletti può dire queste cose perché non deve raccattare voti come gli altri coglioni di politici, ma la realtà è questa. Se io ti racconto il lavoro che io faccio il porta a porta a 64 anni, i ragazzi, quando io vado in casa e gli dico alla la mamma mi dice: oh, mio figlio è disoccupato, allora signora venga a lavorare, noi cerchiamo delle persone per lavorare. No, mio figlio questo lavoro non lo fa, per carità. E allora? E dormono fino alle 11. Ma che vuoi dire? Che cazzo vogliono i ragazzi oggi? Cioè, tu dai ragione a Poletti, in pratica. Ma 100 volte ragione, ma lui se lo può permettere perché non deve raccattare voti. Ma lo sai anche tu. Guarda, quando fanno un casting del Grande Fratello, ci sono 200.000 persone che vogliono fare. Vai a vedere chi vuole fare il panettiere. Un ragazzo che vuole fare giusto, il panettiere, ce n'è? Vabbè, ma uno ha anche il diritto di non fare il panettiere. Fermo là. Ah, non fare il panettiere? Se io sono senza lavoro... A 64 anni vado a fare il porta a porta, amico mio. No, ma su questo hai perfettamente ragione. Ciao. Parenzo, quando si incazza mi arrapa proprio, Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta La Zanzara. I'm Parenzo, torna con noi Massimo Boldi. Buonasera, Cipollino. Cipollino. Oh, ragazzi, Cipollino. Oh. Grande successo Natale al sud, ragazzi. Ma che grande successo, qui si parla di flop, si parla, amico mio, cioè tutti scrivono ma flop. Ma chi parla di flop? Ma come chi parla di mali flop? Mortacci de Pippo. È bello quando Boldi parla in romanesco, in alcuni film l'ha fatto, com'è che fa Massimo, com'è che fai? Una spremuta di sangue, ragazzi. Te lo del chicchero, te lo del chicchero. Dimmi una cosa. No, te dico una cosa, che son milanese. Sì. Però sono lupacchiotto. Sei lupacchiotto. Sono lupacchiotto, se lo diceva in un altro film. Che film era quello, Massimo? Stupendo. Fratelli d'Italia. Fratelli quando d'Italia. Lui diventava, finiva nella curva della Roma e doveva far finta di essere romanista, sì, quindi scappava e poi veniva inseguito dai milanisti. Vedi Boldi, Parenzo una grande cultura cinematografica, ha una grande cultura di film popolari, diciamo, sì, no? Cinematografici. Parenzo, quello Neri Parenti è il regista. Parenzo. Certo. Senti Massimo, ma allora però tu parli di grande successo, amico mio, tutti quanti ti leggo il flop dei cinepanettoni, la recitazione degli altri. Beh, degli altri, vabbè, adesso io non c'entro niente. Ma io come non c'entri niente? Sei pure tu cinepanettone. Ma Giuseppe, sono uscito il 1° dicembre. Io sono l'avancine panettone. Ti vuoi sottrarre al flop tu? Ti vuoi sottrarre? No, ma io non sono flop, io ho incassato 3 milioni di euro. Ma mettono il tuo coso, mettono la tua foto dappertutto. Ma ecco, questo mi ha fatto girare i coglioni. Questo qui è una cosa sbagliata. Perché scusa, c'è scritto: l'America batte pubblico in fuga, recitazione buttata in bacca, le sceneggiature con tutta la tua foto là davanti. La foto là davanti. Ho capito, secondo te è regolare? Perché ne so, ma incazzati. Ma chi quelli che parlano di flop chi sono? Dei cialtroni? Chi sono? Mi incazzo con... Ma no, non è che sono cialtroni, è che parlano così, parlano tanto per denigrare i prodotti. Per che invidia, per invidia. Vediamo alla fine che cosa succede. Però scusami Massimo, è anche vero che ce ne sono troppi, questo lo puoi dire. Tu dall'alto, tu sei il re dei cinepanettoni. Ce ne sono troppi, ma quelli originali sono solamente due. Due sono gli originali? Il signor Boldi e il signor De Sica. Ma perché non tornate insieme allora? Perché non tornate insieme? Ti faccio un appello, il pubblico di Cinepanettoni, di cui faccio parte, devo dire la verità, perché io comunque di Info di Raffa lo vado a vedere, Parenzo. Allora, diciamo la verità. Tu vai al cinema ogni tanto o ti scarichi i film? Devi andare al cinema. No, non vado devi al cinema. Allora, Massimo, perché non tornate insieme? Cioè, alla fine la crisi si può risolvere in questo modo. Io non sono mica... Io posso avere un'opinione, Cristian magari ne ha un'altra. Chiedetelo a lui. Cioè, fosse per te... No, fosse per me, io... tenterei di fare un grande successo insieme di nuovo a Massimo. No, insieme a Cristian, dico. Insieme a Cristian. Siamo arrivati dopo 11 anni a un punto dove il pubblico ci vuole, ma non lo dico io. Lo dice il pubblico, lo dice la critica. Tu dici gli altri insieme lo dicono i social network. Insieme spazzate via il resto, diciamo. Secondo me. Ma cos'è che osta il grande ritorno della coppia De Sica Boldi? Questo è buono, eh? Sì. Cos'è che osta? Osta nulla, osta solamente. Ma non so nemmeno io dirti cosa. Cose personali tra voi, parole dette, incazzature. Cose no, ormai è tutto superato. Tutto superato. No, è superato. Superato. Comunque, l'unica salvezza. È quello che succede tra i milanesi e i romani. Sono amici, ma sono sempre in lite. Hai capito? Quindi, un po' come tra me e Cruciani. C'è il campanilismo. Certo. Tant'è vero che De Sica quest'anno ha fatto un film con un romano. Poteva farlo con un milanese. Sì, questo è interessante, una chiave di lettura interessante. Comunque tu dici alla fine tornerete insieme. Alla fine, siccome ormai ce ne sono troppi, gli originali sono solo due, puntiamo nel 2000. Ma non è meglio finire qui, scusa, perché non fai questo qua di quest'anno è l'ultimo cinepanettone, mi sono rotti i coglioni. Io? Ma io non ho mai fatto il cinepanettone, ho fatto l'avancinepanettone. Vabbè, sì, d'accordo, quello che è. Allora, perché lo dici? È l'ultimo che faccio, no? C'è bisogno di esordi, non mi pare che c'è bisogno di esordi. Non è mai l'ultimo. Però l'anno prossimo... Io voglio continuare a fare il mio lavoro e soprattutto quest'anno ho fatto, non il cinepanettone, o chiamiamolo cinepanettone, l'avancinepanettone, ho fatto un film innovativo. Punto e basta. Capo. E non rompetemi i coglioni, dici. Non, non rompetemi le palle. Non mi rompetemi le palle. I critici come li consideri? Spesso. Guarda, sono stato oggi al cinematografo. da Marzullo e sono tutti d'accordo con me. Vabbè, Marzullo te credo, cioè, beh, Marzullo raramente fa domande come non, dire, non mi pare un intervistatore formidabile. Faccia una domanda e si dia la risposta. Dai, no, ma dico, a parte è notte questo, alta, allora, e sono sveglio. Io faccio il cinema popolare. Sei sempre tu il mio chiodo fisso. Sì, quello lo sappiamo. Che, perché tutto il casino fatto per averti. Sta cantando. Ritornerò in ginocchio da te. Diglielo la cosa, Christian. Ritornerò in ginocchio da te. È carina questa. Ma veramente, resta... digliela a Christian, che cosa faresti per tornare con Christian? Cantagli una canzone a De Sica, ritornerò. Mi deve dare un po' di soldi, però vabbè, come ti deve dare un po' di soldi? Ma chi te le deve dare? Perché avete un contenzioso dei quattrini? C'è un contenzioso, sì. Ma quanti soldi, quanti soldi ti deve dare? Ma no, è un tot. Ma diccelo, 200, 300 mila. Ma non si sa. Ma poi vediamo, perché gliele hai prestati? Vabbè, da cosa, di come gli devi dare i soldi? Ha detto, mi devi dare un po' dei soldi, amico mio. Queste sono cose importanti. Quando c'è di mezzo il quattrino, ragazzi, è sempre quello. È sempre complicato. Abbiamo scoperto che alla fine tra di loro c'è di mezzo il quattrino, c'è poco da fare. Questo è il punto. Quanti soldi ti deve dare? 200 mila? Ma magari. 100? No, magari vuol dire di più. Ah, 300.000. 5, mezzo milione di euro. Sì. 300.000 euro. Circa 300. Vabbè, abbonaglieli, digli, vabbè, non me li dai mai più, però facciamo un film insieme. Mettici la buona parola tu e io abbono, dai. Mazza, mi deve dare 300.000 euro, una cosa incredibile. Senti, una volta mi ha raccontato. Ma davvero ti deve dare 300.000? E così ha detto, c'è una causa in corso evidentemente, pretende 300.000. No, non ci sono cause, no. Però comunque ti deve dare i soldi, non so perché cosa, ma ti deve dare i soldi. Allora, mi deve dare, no, perché gli avevo venduto una macchina che non mi ha pagato. Ma una cosa incredibile. Una macchina da 300.000 euro. Che macchina è, scusa? Che razza di macchina è da 300.000 euro, scusa? È una macchina per fare i soldi. Cioè? È una strappatrice per fare i soldi. Ma no, vabbè, dai, non ci voglio onare. Dai, dici qual è il che cos'è la natura di... Ma no, ma sto scherzando. Cose tra di voi. Non nostre, che non vuoi dire. Comunque sto 300.000. La cosa importante è avere quantificato 300.000. Senti Massimo, una volta Massimo mi ha raccontato una cosa. Sentiamo. Mi ha raccontato una cosa che riguarda un'attrice. Si può raccontare, Massimo? La possiamo dire? Ma diciamo, è un po' spinta. Ma che spinta da quello che mi ha raccontato rispetto alle cose che raccontiamo noi. Te la ricordi Bo Derek, David? Moderno, allora, come no? Racconto, certo, bellissimo. Racconta. La racconto io. Vai, dimmi. Nel film Sognando la California, sì. Certo. Ero a Tucson, in Texas. Sì. No? Sì. E allora, a un certo momento, il regista Carlo Vanzina mi propone di fare una scena alle 6 di sera con la luce a cavallo, significa quando il sole sta tramontando. Sì, sì. Ed era la prima scena che dovevo fare con Bo Derek, che non conoscevo e che non parlo, tra l'altro. Beh, però è comunque una figa pazzesca, comunque. Una figa straordinaria, bellissima, poi sì. Nel 92, ti puoi immaginare quanti anni fa. Mamma mia. Di conseguenza io vado in camera mia, sì. E mi faccio una doccia e comincio a studiarmi la parte. Quando arriva un emissario di De Laurentiis, sì. Un emissario, direttore, diciamo. Di produzione, sì. Con un mal di pancia terribile, sì. Che scagazza nel mio cesso, mamma mia, in una maniera dicendo: oh, che dolore che mi sono mangiato gli graudi, ma che una cosa pazzesca, che dolore che mi... Ed emana un olezzo pazzesco, una roba. Una puzza di merda, insomma, dai, una puzza di cacca. Forte, una puzza di cacca. Una storia terribile. Però. Marcia, oltre. Cacca marcia pure. Cacca marcia. Che resta lì. A un certo punto, questo si alza e se ne va. Dice: guarda, che non ho sporcato, non ho debordato. Mentre va, mi porta un altro, mi porta: Massimo, ti ho portato Bo, e mi ha portato Bo, che mi guarda in faccia, e lei pensava che avevo fatto tutto io. Se puoi immaginare a caso le risate. Tu capisci, uno accoglie nella propria camera la signora Bo Derek, cioè una figa straordinaria, e c'è una puzza di merda marcia dentro la camera. Sì, è una cosa pazzesca. Sì. Mi pare un racconto straordinario alle 20:43. E che è successo? Epico. Come sei uscito dall'imbarazzo? No, gli ho regalato delle rose a cena, poi alla sera. E l'emissario a un certo punto ha detto: questo è per scusarci per la tua presenza, perché siamo qua, eccetera, eccetera. Ho pagato io e ha fatto bella figura lui. Vabbè, senti, un'ultima cosa, Massimo, racconto incredibile. Ma dobbiamo chiedere a Parenzo. No, dobbiamo chiedere a Parenzo. Io e Parenzo dobbiamo chiedere a Boldi. Sì. Beh, come lui si piazza e cosa pensa del fatto che Berlusca potrebbe essere comprato dai francesi. Lui che è vecchio amico. Ho sentito adesso al telegiornale. Sì. Che pensi tu? Che pensi? Che deve restare italiana meglio, se oppure chi se ne frega? Il mercato deve restare italiana. Cioè, deve restare del Berlusca, dici? Sì, è sua. Cioè, certo. Vabbè, ok, sono d'accordo. Però c'è il mercato e uno può dire i francesi possono scalare, oppure tu dici che è un bene nazionale e deve rimanere italiana per forza? Deve rimanere italiana. Deve rimanere italiana. Ma magari te fanno lavorare se diventa francese, che ne sai? Questo può essere vero. Le francese. Vivondi. Può essere vero. Comunque, per te deve rimanere italiana. Sì, italiana. Dai, dunque, sei dalla parte del Berlusca? Sì. Vabbè, sempre. Vai a cena fuori, Ciao, ciao. Ciao ragazzi. Ciao vecchio mio. Ciao caro, ciao. Gianluca da Forlì. Vai Gianluca da Forlì. Ci voleva una bella iniezione. Che vuoi Gianluca, dimmi. Ma che da Forlì, da Bracciano? Gianluca da Bracciano. Che Forlì, ma ce n'è ancora quell'essere vicino a te. Cosa? La maledetta, il popolo della maledetta. Zitto, vai. Giù questo infame. Che è così? Non ho capito cosa ha detto. Un coglione che ha cominciato a sbraitare frasi... Frasi naziste. Non mi andava di sentirle. Guarda, ogni tanto male, non mi va di sentirle. Meno male. Anche perché non si sentiva, cioè si fossero sentite chiare dei mini ragionamenti anche razzisti, uno li può sentire, ma se uno comincia a intonare dei cori. Sì, no, ma io credo questo. Allora, aspetta, se uno si proclama oggi nazista, è legittimo sputargli in faccia. Cioè, ma io non lo so, questo è semplicemente un coglione, magari. Gianluca, è legittimo sputargli in faccia. Eccolo. Arrivederci, grazie. È legittimo sputargli in faccia. Andrea da Grosseto. Buonasera. Vai. Dimmi. Buonasera. No, volevo raccontare questo episodio. Mi è capitato ieri al pronto soccorso. Un senegalese è andato in escandescenza e alla fine, dopo aver terrorizzato tutto il reparto, con due poliziotti venuti a piantonarlo, è stata accolta la sua richiesta, cioè è venuta un'ambulanza per riportarlo a casa nel suo paese. Quindi secondo me è discriminazione rispetto a quello che avviene a tutti gli altri pazienti. Che è successo? Non ho capito. Cosa è successo concretamente? L'hanno riportato dove? Con l'ambulanza a casa sua. Quale casa? In un paesino vicino a Grosseto. Ma che ne sai? Questo qua magari è uno che ci ha un permesso di soggiorno, che c'ha cioè italiano, che ne sai? No, perché lui urlava. E perché c'entra? Gli urlano solo gli stranieri, non ho capito. Ma guarda che è incredibile. Ma dite delle cose sensate almeno. Cioè, ho capito. Questo qua è un extra comunitario, andate a pronto soccorso. Va bene, d'accordo. Esatto. Vabbè, è straniero, magari. Non è un taxi. Ma amico mio, magari questo qua magari è italiano, cioè non è detto che sia per forza profugo o clandestino. L'ha detto lui che era profugo. Ah, ok. E che ne so, se non lo dici. Allora ho ascoltavo perché urlava. Quindi questa è una immigrazione secondo me sbagliata, perché... Ma non ho capito, questo che cosa ha fatto? Cosa ha fatto questo qua? È andato in escandescenza. Ha iniziato a picchiare e... Ma è pieno di italiani che fanno queste cose, no? Cioè un sacco di gente può andare in escandescenza. Tu dici l'italiano è sopportabile, uno straniero no, perché... No, io l'atteggiamento che ho visto io è stato fatto da questo, e mi sembra che un atto di prepotenza... Ma qual è la prepotenza? Dai in escandescenza. Ma perché andare in escandescenza può capitare a chiunque, purtroppo. No, andare in escandescenza. No, ma era in escandescenza perché lui pretendeva di essere riportato a casa. Ah, addirittura. Vabbè, questo esatto. Adesso entriamo nel dettaglio. Ti ha colpito questa cosa? Sì, mi ha colpito perché poi è normale che la gente diventa razzista. Perché pensa perché tu che... dici arriva uno, profugo, eccetera, dai in escandescenza, certo, riportatemi a casa, certo. Tutto al suo servizio, dici le autoambulanze, certo. Eccetera. Poi, Natale, provincia di Salerno, vai, Natale, provincia di Salerno. Che succede, cara? Che succede? Natale? Non è ancora Natale. Buon Natale. Natale, provincia di Salerno. Vabbè. Natale. Dimmi, Natale. Sei uno scemo, Crucioni. Devi cambiare mestiere. Sì, Natale, dimmi. Dimmi Natale. Devi cambiare mestiere. Questo si è fatto qualche tempo. È abbastanza pesante. Anche. Luigi Forlì, vai. Poverino, succede anche disturbato, questo. Luigi da Forlì, vai. Pronto? Dimmi Luigi, dimmi. Ciao. Io volevo dire velocissimo che ho sentito Poletti quando diceva il suo ragionamento, che in sé per sé non è che avesse detto una boiata. Perché lui diceva i 100.000 che sono andati via, o tutti quelli che sono rimasti, non è che siano tutti dei coglioni, come i 100.000 che sono andati via. Fosse limitato a dire quelli che restano in Italia non necessariamente sono dei pistola, come ha detto, dei pirla, degli imbecilli, allora va benissimo, anzi avrebbe avuto pure un applauso. Cioè, non necessariamente chi va all'estero è un genio, no? Cioè, su questo non c'è il minimo dubbio. Fa una scelta qualche volta dettata dal fatto che magari non ci sono spazi in alcuni settori, all'università, eccetera, eccetera. Purtroppo ha aggiunto anche un giudizio su una parte di quelli che vanno all'estero, che secondo lui, insomma, abbiamo sentito quello che ha detto, no? Cioè, è meglio perderli, diciamo, che trovare, è meglio che restino lì. Che è una cosa ridicola che un ministro non può dire, perché ci sono casi e casi, e poi chi lo decide chi è degno di andare all'estero e chi è degno di rimanere? Il ministro Poletti? Sì, no, per cui è una cazzata, è una boiata detta da un ministro ancora peggio. Questo mi pare abbastanza chiaro, siccome è il ministro del lavoro e siccome c'è un sacco di gente sensibile su questo argomento, a mio parere il ministro Poletti dovrebbe fare una cosa molto semplice, dato che è anche un governo, insomma, che ha dei problemi, no? Che è nato claudicante, sì, ottima chiusura questa, allora, ottima. Direi che dovrebbe fare una cosa, che sia una piccola letterina in cui c'è scritto: mi dimetto dall'incarico di ministro del lavoro. Mi pare una buona chiusura. Non credo che gli italiani o la gente dice no. Sì. Che è successo? Una buona chiusura, una cosa grave. Avremo, non abbiamo più il ministro del lavoro. No, la gente se ne farà una ragione. Si continuerà a campare anche senza il signor Poletti. Buona chiusura. Avere nulla contro la persona. Non c'è dubbio. Ma si può fare a meno del ministro Poletti. È un'ottima chiusura. Buona trasmissione, sta qua alla fine. A domani, ciao. No, per caso. Salute. Ciao Zanzara, sono un grande fan vostro e vi seguo da anni. Vaffanculo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24, libera la voglia di fare.